Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. E se avessi sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. Sì, no, però Luca, non possiamo andare avanti così, per tutto questo tempo. Adesso, vabbè, avete fatto anche il secondo gol. Bel secondo tempo della Sampdoria, che ha alzato i ritmi, ha alzato il pressing e ha anche sfruttato in maniera decisiva le occasioni, al contrario. Vabbè, 2-0 per la Sampdoria, adesso possiamo darla questa notizia? Sì. E diamola, l'ha segnato Sansone il secondo gol, il primo gol l'aveva segnato Estigarribia, proprio, sai, una di quelle punizioni che si infilano là, ma chi c'è in porta con Goicoechea? Ah no, c'è Stekelenburg. Quindi vale di più, perché con Goicoechea, chi è che non segna con Goicoechea? È già cambiato un po' l'area a Roma, no? È della Roma sostanzialmente, e quindi vabbè, ne ha preso già 2 in questo momento, però 27 minuti, quanti ne potranno prendere ancora? No, Basta, finito per la Roma. Dopo il gol di Estigarribia all'11° del secondo tempo, al 28° segna Sassone direttamente su punizione, la mette lì nel 7, mentre la Roma, ricordiamolo, ha sbagliato un rigore con Osvaldo. Sì, no, raccontiamo questo rigore qua, perché è stato veramente vergognoso, cioè veramente una cosa. Osvaldo che arriva lì, fa un po' il ganassa, no? Sì. E quindi arriva, fa 2-3 passi, rallenta il passo e a un certo punto tira sperando in una in un tuffo del portiere da qualche parte. Voleva fargli il cucchiaio. Era pronto al cucchiaino. Esatto. Niente. Voleva fargli il cucchiaio. Si è visto proprio. Ha iniziato a camminare pian pianino per vedere se si tuffava Romero. Romero non si è tuffato, è stato fermo. A un certo punto non sapeva cosa fare. Gli ha passato il pallone. Non gliel'ha tirato, gliel'ha passato proprio. Alla fine, insomma, situazione imbarazzante. E gli ha passato questo pallone. E lui l'ha presa. E poi, niente, era lì vicino. Era pronto alla bisogna, ma in realtà si è subito fermato e si è intristito. Si è intristito come tutti i romanisti, come tutti quanti i tifosi della Roma, che ormai vedono sprofondare lentamente le speranze per raggiungere la Champions. Questa è la Roma di Andreazzoli, si vede la mano di Andreazzoli nella squadra. È cambiato un po' tutto, diciamolo, però andiamo a vedere anche gli altri risultati. Atalanta-Catania è 0-0, siamo al 30° minuto. Bologna-Siena 1-1, il Siena era passato in vantaggio con Emegara, sempre lui Emegara, che poi un giorno scopriremo da dove chi è arrivato. Chi è? E poi ha pareggiato Kone del Bologna. Cagliari-Milan, vince il Cagliari 1-0, gol di Ibarbo, attenzione, Ibarbo ha segnato su assist di Conti. No, l'hai detto male, scusa. Ha segnato, gol di Ibarbo. L'hai detto male, nel senso che, dillo, Cagliari-Milan 1-0. Ibarbo, senza cresta, ha messo dentro comunque, ha fatto gol comunque, insomma. Al-Sharawi fuori. Al-Sharawi è uscito perché è entrato Boateng, stanno giocando con Niang e Balotelli in attacco il Milan in questo momento. Saluta il Palermo. No, dici che Malesani di già? Saluta il Palermo. Ciao Palermo. Che se ne sta andando lentamente, l'MLM è 4-4 perché ha 18 punti, mentre invece oggi perde proprio contro il Pescara. Esatto. No, cosa è successo? È successo che ha segnato la Roma. Vabbè. Che ci vuoi fare? Vediamo un po', tiro, chi è? Bisognerebbe vederlo da dietro la porta per capire se c'è posizione regolare e se è attiva, perché Osvaldo è sicuramente sulla traiettoria del pallone. Ecco. E c'è un tiro di Lamela dal limite, c'è Osvaldo sulla traiettoria e non si capisce. Che non dà fastidio la visuale. Vabbè, 2-1 comunque per il momento, è inutile stare qua a cincischiare. Chi è che ha segnato? Ha segnato Lamela su tiro dal limite. Stavamo parlando del Palermo, perché il Palermo sta perdendo col Pescara in casa. 1-0, gol di Bjarnason. Sì. Sampdoria, abbiamo detto fino adesso che sta 2-1, in questo caso Udinese-Torino. Il primo gol della giornata, quello di Pereira. Sì. Non ha segnato né Muriel né Di Natale, quindi non smette di segnare. 1-0 per l'Udinese. Esatto. Vabbè, basta. Questi sono i risultati. Perché stasera c'è Inter-Chievo. Ricordiamo che oggi c'è stata un'appassionante Parma-Genoa. Partita piena di emozioni. Per proprio... fortuna che l'ho video registrata. Perché esatto. Così posso rivederla. Perché esatto, guarda, proprio una partita di quelle appassionantissime. Sono partite che ci rendono veramente anche felici. Ci conciliano col calcio, tra virgolette. Un tristissimo 0-0. Diamo però anche qualche numero qui intorno: 800 24 0024. Poi potete telefonarci e vi chiediamo un aiuto. Vi chiediamo un contributo, vi chiediamo una collaborazione, cari ascoltatori, e attenzione perché c'è il terzo gol della... È lui! Anche Icardi in gol! Eccolo qua. Ed è sempre la Sampdoria. Sì, Luca, però non possiamo fare queste sceneggiate in diretta. Dai, che tristezza. Quando segna Maurizio Icardi. Sono tristi anche dall'altra parte del vetro. No, voglio dire, per il tuo comportamento. Sta sorridendo. Sì, per non piangere. No, sta sorridendo. Guarda, le mani nei capelli. Abbiamo capito la battuta e sta sorridendo. Non ripeterla 87 volte. Perché... Questa è euforia. Perché la Sampdoria adesso va in gol con 3 gol. Fa 3 gol, tra l'altro, alla Roma. Cioè, esatto, capito? Chi è che non fa 3 gol alla Roma adesso? Non vorrei dare lascia, non tutti. Vabbè, comunque. Secondo me, sì. Valeria Bernardi è un po' sampdoriana dentro. Sì. Quindi fa di no con la mano. Invece, vabbè, comunque. Ecco, vabbè, ecco. Ma Valeria Bernardi. No, che... ti sta dicendo no. No, ti ha detto di no. Comunque, ecco. 3-1 della Sampdoria sulla Roma. Il gol è stato segnato da Icardi. Un cross dalla destra e lui di testa sul primo palo l'ha infilato. Senti, ti dà fastidio se parlo con persone che di calcio sono un po' più competenti. Con il nostro mister di oggi. Vabbè, andiamo col mister. Mister Galeone, pronto? Salve, buongiorno. Come sta? Tutto bene? Bene, bene. Sta seguendo intanto le partite? Ma o così così. Cagliari-Milan, ecco. Senta, Galeone, è un po' la sua giornata, perché il Pescara vince, l'Udinese vince, le squadre da lei allenate stanno vincendo. Si ricordano però, ancora, insomma, in questo caso. Ogni tanto. Ecco, vabbè, perché è così triste? Ma su questo? Ma non era stato sostituito. Sì, infatti, però è rimasta un po' la mano ancora, l'impronta è rimasta ancora lì sul campo. Però mi parli un attimo di questo Cagliari-Milan con sospiro, perché lei ha fatto un Cagliari-Milan e sospiro. Quindi cosa vuol dire il sospiro? Niente, il Milan, al di fuori dei primi 10 minuti, un quarto d'ora, niente. Il Cagliari merita il vantaggio. Sì, ha avuto le occasioni più nitide, insomma. Milan ha fatto pochissimo, poco e niente. Proprio. Tanto c'è il Palermo che ha pareggiato proprio ora, in questo momento. Bravo, avete fatto bene a dirmi che il Pescara sta vincendo. Però è un po' anche un gol dell'Udinese, perché ha segnato Fabbrini che fino a qualche tempo fa giocava a Udine. Partita. Sì. Sentiamo. Il dottore è arrivato in prestito. Non abbiamo ancora visto il gol perché eravamo concentrati sulle sue parole. In questo momento eccolo qua il gol che sta arrivando. Cross ovviamente dalla destra. Fabrini da solo, cioè poteva soltanto buttarla dentro in questo caso. C'è stata una deviazione in mezzo all'area di testa. Poi Fabrini sulla sinistra ha infilato la porta. Quindi ecco. Palermo Pescara 1-1. Ecco, allora stavamo parlando però di questo Milan-Cagliari, anzi Cagliari-Milan. Con le creste, senza creste, insomma, però di fatto è Barbo che l'ha segnato fino adesso. Sì, punizione come sempre, il Milan subisce sempre gol, è andato vicino a gara raddoppio su un'altra punizione, adesso cercherà di fare il pressing finale, spero in Bojan, sì. Che inventi qualcosina. Ma perché lei è tutto sommato, cioè, cuore rosso-nero? No, gran parata adesso. Ha visto? Ecco. Vabbè, comunque, voglio dire... Il rigore? No, c'è rigore per il Milan? No, per il Cagliari? No. Sì, rigore c'è... per il Milan. Per il Milan. È espulso a Story per la seconda munizione. Eccolo qua. Il rinforzino, l'aiutino, insomma, le solite cose. A un certo punto il Milan non può perdere con tutto quello che ha speso durante la campagna acquisti, in questo caso. Però il rigore mi sembra... Rigore. Descriviamo, c'è stata una cinturata proprio di Astori su Astori, Balotelli, sì. Che ha preso Balotelli. L'ha atterrato più una mossa di judo che di calcio. Sì, l'ultima volta l'ho visto pronto alle Olimpiadi di Londra. Era taekwondo e judo, ho visto insieme in questo caso. Sentiamo, seguiamo questo rigore. Ci dicono dall'Inghilterra che il portiere che ha seguito, che giocava nel Manchester City, diceva che è impossibile parare un rigore di Balotelli. Non so bene perché, però è convinto anche di questo. Non ne vuol sapere di stare tre pali come ad innervosire. Balotelli, fischi assordanti dello stadio di Sarenas. Parte Balotelli, il destro, rete. Eccolo qua, è una cannonata. Ha fatto la stessa cosa che ha fatto Osvaldo, solo che Osvaldo non l'ha segnato perché il portiere del Cagliari si è tuffato. Balotelli ha aspettato che andasse giù e poi l'ha messa dall'altra parte. No, il problema è che lui tira delle cannonate da fermo, che questo è una cosa incredibile, no? Giusto? Mister. Sì, non sbaglia i rigori, è difficile sbagliare i rigori. Poi si ferma bene un attimino solo, guarda il portiere. Ragazzi, si è buttato. Calciato poi in maniera perfetta. Quindi... Adesso il Milan tenterà di vincere, lo vince o perde. Adesso non è che possiamo stare qui. Anche perché nelle prime 12 squadre non vince nessuno, non ha vinto nessuno, al di fuori della Juve. Certo. Quindi sarebbe un gran risultato a vincere. Vogliamo parlarne di quello? Del fatto che ha vinto solo la Juve? Ma intanto la Juve è la più forte. Sì? E come... vabbè, come io delle volte adesso ogni tanto mi chiamano vostri colleghi di radio napoletane, cose del genere. Ultimamente non sto rispondendo perché dopo mi tratterebbero male i napoletani, io non voglio assolutamente. Perché secondo me. Insomma, il Napoli che parli di scudetto, Perché è esagerato, ci sono tra il Napoli e Juventus ci sono 10 punti di differenza. Insomma. 10? Così tanti. Sì, la Juventus ha un problema, il problema è che stia bene Vucic. Ma se sta bene Vucic non c'è storia, insomma. Il Napoli ha due grandissimi, quasi fuori classe, Cavani e Hanzik, poi ha tre buoni giocatori e poi insomma così colà. Sì. La Juventus ha tanta roba in più, ma tanta proprio. Esagerata direi da questo punto di vista. Però, nonostante poi in realtà, voglio dire, sono stati, come dire, la scelta era un po' così, lasciava un po' i tifosi un po', sempre un po' perplessi, perché Vidal nessuno lo conosceva quando è arrivato, poi di colpo è esploso nella Juventus. Lo conosceva lei Vidal? Sì. Ed era convinto della scelta? Beh, è un buon giocatore sicuramente. Che succede? No, perché niente, Cagliari, tranquillo. Si rilassi, tranquillo, non succede niente. No. È vero che si sta un po' sbilanciando. Ecco il mio pupillo. Eccolo chi qua. È? Niang? Niang. No, Niang è molto bravo, ma il mio pupillo è Bojan. Bojan, sì. Ecco. Beh, adesso è un po' sbavananata fuori questo cross, diciamo la verità. No, non è lui. Ecco perché. No, ma non volevamo offenderla. Però, senta, Galeone, lei è d'accordo con una dichiarazione fatta in settimana da un eminente uomo politico e presidente di una squadra di Serie A nei confronti del suo allenatore, che ha detto che non capisce niente praticamente di calcio, Allegri? Non è vero. No, che non è vero che non l'abbia detto. Max è stato molto bravo, se non avesse avuto quell'inizio di 9 partite così disastrose, avrebbe fatto più o meno gli stessi punti della Juventus nelle altre 14 o 15 che ci sono state. Quindi è con una squadra molto giovane, per 4-5 anni lì davanti nel Milan non puoi toccare niente, perché tra Sharawi, tra Bojan, Niang e Balotelli, insomma. A meno che non vendono. Ma non credo. No. Non penso proprio, no. Però Al-Sharawi è impressionante quello che ha fatto in questo campionato. Sì, adesso è un pochino in calo, poi... Vabbè, adesso è arrivato Balotelli, quindi diventa per... ma Max lo tiene un po' tranquillo, anche perché Balotelli non può giocare la Champions. Tra 10 giorni c'è questa partita col Barça e credo che il Milan, almeno io sono stato a Milanello l'altro ieri, così li vedo convinti che questa è la l'unica volta in cui veramente credono nella possibilità di poter superare il turno contro il Barcellona. Ma sì? Barcellona non sta facendo benissimo in questo periodo e loro sono piuttosto sereni, diciamo. Ecco, mi sembra che... Okay, non riescono a annientare il Cagliari, però il Barcellona lo piallano. È questo non concetto. Riescono a annientare il Cagliari. Avevano cominciato bene, sembrava. Sembrava proprio sulla lì che Flamini e Niang e Abate... Però quando si arriva al cross 10 volte e ne sbagli 8, mister, è piuttosto grave. Dai e vai, non è solo calcio. Buongiorno a tutti, intanto ritorniamo con mister Galeone qui a Dai e Vai, e ci abbiamo però nulla di fatto in questo momento. Perde del tempo, lo chiude Pisano, poi Agazzi, Abate. Niente, Milan in attacco, continua a martellare il Cagliari, sono 1-1 in questa fase, ma per il momento nulla di fatto. Mister... Ancora una volta hanno raggiunto bene il fondo, però poi quando c'è da fare i cross... Bisogna risalire dal fondo in qualche modo, diciamo. In qualche maniera palla in mezzo bisogna pur metterla. Ma è sereno Allegri? Sì, molto. Evito la battuta comunque, Allegri. Ecco, è sereno comunque di fronte... Sì, anzi, rispetto a un mese attenzione, fa, perché proprio in questo momento... Balotelli di testa proprio da un metro l'ha messa... È riuscito a dare in braccio al portiere in questo caso. Diceva appunto che regolare, eh? Sì, sì, sì. Comunque, cosa diceva in sostanza? Allegri comunque è sereno, anzi mi sembra sì, ben rafforzato, un mese e mezzo fa molto meglio, molto meglio, gli sono cresciuti anche i capelli. Beh, d'altra parte, scusate, adesso gli arriva Balotelli, tutto sommato, c'è davanti al Sharawi, Balotelli butta via, no? Che un attacchino mica da dire. Niang è molto bravo, Niang, ho visto anche degli allenamenti... Ha stupito? L'altro ieri è molto molto bravo, veramente. Ecco, visto che ha seguito gli allenamenti, chi è il più in forma e quello meno in forma del Milan, secondo il suo occhio clinico? Ma più in forma. Fisicamente sta molto bene Flamini, però corre troppo. Ah. Poi a un certo punto il capo finisce. Fa anche confusione, perché ogni tanto quando cambia sistema Max che li fa giocare con i due centrali e lui continua a correre, invece i due centrali dovrebbero fermarsi di più, magari lasciare che i 3 più 1 davanti facciano il resto. Allora, il tentativo di il Milan in questo momento tenta di vincere e tirare delle cannonate da fuori come cannoni Navarone, pareggio mi pare, no. Cos'è? No, sempre 1-1 Palermo-Pescara? Sì, sempre 1-1. Ecco. Quindi tenta di colpire da fuori, visto che non è riuscito a un metro Balotelli a buttarla dentro di testa, però l'altra cosa è, va bene, ok, ecco, diciamo così, che il Milan batte il Cagliari, non importa, però batte il Barcellona, ma dove arriva a quel punto? A quel punto si va avanti. A quel punto intanto uno tra Real e Manchester va fuori. Quindi una grande va fuori. Beh, resta il Bayern, no? Prima o poi arriverà il Bayern, no? Sì, ma c'è il Paris Saint-Germain probabilmente. Sì? Paris Saint-Germain può essere abbordabile. Fastidioso. Ma abbordabile. Sì. Nonostante la scarsa esperienza di Ibrahimovic nel segnare poi in Coppa. Ma non ha mai vinto una Coppa. Appunto. Quindi per scaramanzia. Che la possa vincere... col Paris Saint-Germain, anche se l'anno scorso insomma siamo tutti un po' presi in giro, perché la Champions ha vinto la squadra più scarsa di tutte. Esatto. Ha vinto Drogba contro tutti e... quindi può succedere di... eccolo! No, ma adesso non è il caso. Mister si deve comportare da mister, cioè i mister non urlano in questo caso. No, ma lei è molto legato al Milan perché c'è Allegri, se no non urlerebbe così, dica la verità. Certo, è stato 8 anni con me come giocatore insomma, in questo caso vabbè. Senta, ma sempre l'eminente personaggio politico di cui non possiamo fare il nome per par condicio ha detto che il Barcellona può essere battuto soltanto giocando con 3 punte e pressandoli e schiacciandoli e non lasciandoli respirare, d'accordo? Veramente fossi io l'allenatore giocherei con 2 centrocampisti, 3 3 e una punta sola. Ah, perfetto, proprio in linea Pazzini, quindi. Quindi Balotelli non può fare la Champion, quindi con Pazzini e i 3, Niang, Bojan e Stavi. Però un po' indietro loro? E dopo 2 mediani, non so, Montolivo, Boatenga, non lo so. Sì, 2 cagnacci che mordono lì a centrocampo. Montolivo, cioè. Montari, 2 a metà campo. Sì. Ecco, però a questo punto dobbiamo parlare... Questo è possibile contro il Barcellona, perché sennò contro le squadre europee è difficile giocare difendendosi e basta, perché poi hanno una qualità tecnica veramente superiore. Mamma mia! Adesso, no. Che aveva fatto? Lo so. Purtroppo non l'abbiamo visto. Cosa è successo? Ci dica. Che aveva fatto? Chi? Balo? Sì. Ecco, no, è un po' così. Sempre 1-1, dai, Galeone. No. È un po' così. Era fuori questa. Noi non l'abbiamo ancora visto nel replay. Adesso dovrebbe arrivare. Mamma proprio in questo mia, momento. Che aveva fatto. Una girata al volo proprio in mezzo all'area di Balotelli, una specie di forbice volante di sinistro. Sì. La palla è uscita di 20 centimetri alla destra di Agazzi. No, la palla è andata in rete. Era uscita dal fondo. Era uscita dal fondo. Noi stiamo vedendo adesso, in questo momento, è il tutto. Vabbè, comunque... Eccolo qua, il gol. No, ancora! Incredibile, è una roba pazzesca. Non riescono a segnare niente. Intanto vada a tirar su il buon portiere del Cagliari, perché si è schiantato contro il palo, no? In questo caso, nel tentare di recuperare. Però era fuori gioco, non sbaglio. Sì, c'era fuori gioco. C'è stato un tiro dal limite del pupillo di Galeone, cioè Bojan. Agazzi ha parato, ma non è riuscito a trattenere la palla. È arrivato Balotelli di testa. Agazzi ha parato di nuovo, ma Balotelli era in fuori gioco. Quindi bandierina alzata, niente niente da fare all'azione, come se non fosse esistita. Vabbè, diciamo che tra l'altro manca ormai un 30 secondi, mi pare, no? Alla fine, no? Intanto ci chiedono per il mister Galeone, è meglio Messi o Maradona? Domande semplici e lineari, tra l'altro. Visto che lei li ha allenati tutti e due, meglio Messi o Maradona? Ecco. Io ho visto molto di più Maradona, quindi è più facile. Magari Messi lo vedo poco, lo vedo ogni tanto, l'ho visto due volte, tre volte dal vivo. E un paio di volte allenarsi a Barcellona quando siamo andati con l'Udinese in ritiro lì. Quindi? Però Maradona, quello che mi ha fatto vedere Maradona, credo di. Ma non è un po' legato anche un po' alla gioventù, anni indietro, insomma, queste cose? Intanto sì, sì, può darsi anche questo. Ci sono dei problemi. Però io ho visto Maradona mettere la testa dove gli avversari mettono i piedi. Fantastico. Ma era anche perché era basso, forse, no? Per sì, questo. Ma anche Messi è basso. È vero. Sì. Intanto volevo soltanto annunciare che in questo momento c'è dibattito a Sampdoria, Roma, e viene espulso l'allenatore della Samp, giusto? Sì, Delio Rossi dovrebbe essere espulso. Espulso, eravamo tempo ormai scaduto, termina anche Atalanta-Catania in questo momento, è finita la partita del Milan, Cagliari-Milan 1-1, Atalanta-Catania è terminata 0-0, c'era dibattito a Marassi, non si è capito bene perché, giocatori e tecnici in campo che si spintonavano un po', ma... Comunque, va bene parlare del Milan, però il Milan mi pare che abbia ben tot punti di distacco dalla Juventus. 14. Appunto, allora parliamo anche della Juventus però in Coppa, visto che diamo per scontato che in qualche modo non interessa in questa fase del campionato. No? Però in Coppa cosa dove può arrivare la Juve? Con o senza Vucinic? Perché adesso In Coppa ha avuto un buon sorteggio sicuramente, però che non la facciano troppo facile, perché con il Celtic ha perso anche il Barcellona. Non è come dire. Giocare lì non è mai facile, giocare contro gli scozzesi in quei campi è gran bel campo, è quello lì. Sì, è forse uno dei più belli d'Europa. È andato lì? Non la facciano troppo facile. Poi in campionato sono talmente tanto forti che non credo subiranno... Ma il mio sospetto, scusi mister, sono loro che sono forti o sono gli altri che sono veramente deboli? Lo dico anche con questo bel tono che mi piace, fa molto radiofonia. Insomma, io, dato che io ho sbagliato tutti i pronostici, perché ho detto che tecnicamente la squadra più forte del campionato era la Roma. Perfetto. Scusa Luca, perché abbiamo chiamato Galeone? Scusa. No, perché è un creativo. Ne azzecca una. Non ne azzecco uno, ma io, è solo che io faccio una cosa. Io quando sbaglio le cose me le ricordo. Ecco, gli altri no. E invece avevano detto tutto il contrario. Io mi ricorderò che ho detto con Napoli arriva a 10 punti dalla Juventus. L'abbiamo registrato. 10 punti, mi ritelefonerete. Esatto. Certo. Ne abbiamo già segnato il tutto in questo caso. Tecnicamente, insomma, uno che ha una squadra come la Roma, con quella qualità tecnica, e che abbia questa squadra in quella posizione in classifica, veramente io da allenatore mi vergognerei. Se la prendono molto con Baldini e Sabatini, io credo che abbiano portato due giovani tecnicamente validissimi nella Roma. Purtroppo non hanno trovato il gioco se non a sprazzi. E quindi qui il problema è che deve dare il gioco, insomma. Con Zema si trova il gioco, soprattutto per quello che riguarda la fase offensiva, lì niente da dire, per carità. Da dietro poi. Molto belle. Molto spettacolare, anche esteticamente bello da vedere. Andiamo, noi dobbiamo lasciarla tra un po', in questo caso. L'ultima domanda, Galeone, ma è possibile che una squadra giochi contro il proprio allenatore? Perché si diceva che a un certo punto a Roma alcuni giocatori non giocassero per Zeman. Non voglio credere. Poi anche tra parentesi, Zeman come allenato aveva Totti, non credo che a Roma nessuno si possa permettere mettersi contro. Però De Rossi No, ma neanche De Rossi. De Rossi è un ragazzino di Totti, probabilmente il futuro capitano della Roma, eccetera eccetera, a meno che non vada via. Però insomma Totti è di un altro spessore, comanda lui. Mister, noi la ritelefoneremo ovviamente nel momento in cui ci suggerate qualche cosa di importante. Pronostico secco. Quando il Napoli sarà esatto. Dalla Juve. Però un pronostico secco, no? In questo caso qua. Allora, la Juventus in Champions, cosa succede? Cosa fa? Non la vince. Va bene. No. Vabbè. È stato bello comunque. Grazie, a risentirci. Un po' triste, devo dire, come finale. Comunque. No, scusi, sono disturbato. Vabbè. Grazie mister, a risentirci. Dai e vai. Non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Watch this! Andiamo con questo risultato, perché insomma... Vale, no, Sampdoria, cioè, Roma 3-1, gran risultato. Beh, la Sampdoria... se vuoi fissarti solo su questo risultato, perché fissiamoci. Ci sono però altri risultati? No, ci sono altri. Nadia Fanchini ha vinto la medaglia d'argento. Ci sono ai altri mondiali. Risultati che però stanno arrivando in questo momento, che ci possono dire quali altri risultati se non quelli del fantacalcio. Parliamo di cose serie. Parliamo ovviamente di dati veri in questo caso, e parliamo di assist per tutti quelli che giocano a fantacalcio. Ma non solo, perché oggi ci sono stati rigori sbagliati, rigori parati, espulsioni, ce n'è di tutto e oggi. È la giornata del fantacalcio, diciamo. Intanto guarda che sta arrivando, il primo che è arrivato subito è Allegri, tra l'altro tra un po' sentiremo anche lui. Va. Comunque parliamo allora di questo fantacalcio e diamo i primi risultati. Allora, vabbè, Atalanta-Catania 0-0, non c'è niente, ne espulsi, una serie di ammoniti, ma niente di che. Nel Bologna col Siena abbiamo gol di Cone con l'assist di Diamanti. E fino a qua ci siamo. Diamanti ce l'hanno in molti. Ecco. E Megara ha segnato nel Siena con l'assist di Sestu, perché c'è stato un cross dalla sinistra, quindi Sestu. Scusa, Diamanti ce l'hanno in molte, tra cui tu. Molti ce l'hanno. Poi... Cagliari-Milan c'è l'assist di Conti, perché ha tirato una punizione, poi Barbo di testa ha messo la palla. Balotelli ha segnato rigore con l'espulsione di Astori, perché nell'azione del rigore è stato espulso Astori. Quindi chi Cagliari c'ha Astori? Meno uno. Poi... Palermo-Pescara, anche qua, due gol e due assist. Fabbrini per il Palermo con assist di Muñoz, perché ha colpito di testa in mezzo all'area e ha dato la palla a Fabbrini. Mentre il cross dalla destra per Bjarnason del Pescara è stato fatto da D'Agostino, quindi assist di D'Agostino sul gol di Bjarnason del Pescara. Vabbè. E invece è stato Sansone Dei a Genova. Adesso non esageriamo, Sansone Dei. Perché questo qua, ricordiamolo, è il Sansone. Che tristezza, Sansone Dei. Il Sansone è quello forte, perché quello del Parma è quello debole. Sì. Quindi Sansone ha fatto due assist sul gol di Estigarribia e di Icardi e un gol sulla punizione che ha tirato lui grazie al contributo di Stekelenburg, che si è fatto passare la palla in mezzo alle mani. Espulso Delio Rossi, che non serve molto per il fantacalcio. Certo, quindi però riesce a lasciare andare. Rigore sbagliato da Osvaldo, rigore parato da Romero, perché Osvaldo l'ha sbagliato malissimo, ma Romero l'ha parato benissimo, e il gol di Lamela per la Roma senza assist, perché c'è stato un po' una carambola, quindi nessun assist. Udinese-Torino, per concludere, il gol è di Pereira senza assist, espulso Ventura, anche questo per il fantacalcio non serve, però due allenatori espulsi in questa domenica. Che non c'entra niente col fantacalcio. No, Delio Rossi e Ventura. Degli Rossi da Sampdoria, Ventura del Torino. Sì, ma questo non ti cambia il tuo fantacalcio. No. Ma sai che c'è qualcuno che gioca anche con gli allenatori? Ma sarebbe una storia lunga. No, lasciamola da non parte. Non tocchiamo quell'argomento, perché sta diventando anche veramente un bel problema da questo punto di vista. Però noi invece andiamo a toccare un altro argomento e lo tocchiamo col nostro Luca Cancellara, perché già là il paese sta facendo due domande. Quanto nevicherà questa notte? Esatto. Primo. E secondo, dov'è Luca Cancellara? Luca Cancellara, pronto? Buon pomeriggio. È in chiesa perché sì, scusa che... Luca, ti lancio così, con questo tono bello alto, tu mi dici buon pomeriggio così triste, cioè che è successo? È arrivata la neve da te? No. Pronto? E non senti. Luca, non senti. Non ci senti? Luca? 1, 2, 3 eccomi qui. Eccoti. Allora. Intanto volevo darvi, come dire, il bollettino meteo qui sopra il forum di Assago, è, direi che è limpido. Limpido, e il sole è ancora un po' tiepido. Ecco, vabbè, sei lì al forum dietro la struttura, per cui qui senti, sei lì al forum d'Assago, comincia ad andare vicino allo zero. Sei lì al forum d'Assago perché? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori. Alle 18 ci sarà la finale della finale di Coppa Italia di basket tra Varese e Siena. Fra Varese e Siena, Sì, pronto. Non ci sente. Vabbè, dai, lasciamolo andare. Lo riprenderemo tra poco, guarda, perché tanto adesso in questo momento qua non riusciamo a sentirlo neanche noi. Lui non sente se stesso, tra l'altro, esatto. In questo caso qua, quindi diventa... Però tocchiamo l'argomento invece. Cosa c'è? No, niente, che sono eventi sportivi che si stanno verificando in questo momento. Tipo Irlanda e Inghilterra di rugby, si sta giocando l'ultima partita del torneo 6 nazioni, 3-0 per l'Irlanda, mentre il Manchester United sta pareggiando 0-0 con l'Everton nel campionato inglese. Ricordiamo che il Manchester City di Mancini, che oggi era a Marassi, ha perso 3-1 col Southampton ieri sera. Beh, hai visto. Cioè, brutte cose. Beh, cioè, d'altra parte è andata via la cresta. Niente. Vuoi sentire Allegri? Sentiamo. Mistico molto intensa, sotto l'aspetto tecnico un po' meno fino all'ultimo quarto d'ora. Abbiamo preso un gol a 20 secondi alla fine del primo tempo su una punizione, abbiamo rischiato di nuovo su una seconda punizione nel secondo tempo, però credo che sia un buon punto contro un buon Cagliari e dobbiamo continuare su questa striscia positiva che dura ormai da un po' di giornate. È normale che quando insegui devi cercare di vincere, però quando non vinci è sempre meglio pareggiare che perdere. Questa è filosofia. Beh, è veramente grande. Quando comunque... non vince è meglio pareggiare che perdere. Questa me la segno, perché è importante. Comunque è un buon punto con un buon Cagliari. Sì, Milan-Cagliari, presente? Certo. Sì, Milan-Cagliari. Tra un po' ci sarà Milan-Barcellona, esatto. E lui dice un buon punto con un buon Cagliari. Cagliari ha 25 punti, cioè non è l'ultima squadra della classifica. Luca, ci senti adesso? Pronto, Luca? Eccomi, adesso sì, mi sento benissimo. Ah, bene, allora, dicevamo, tu sei lì collocato al Forum d'Assago perché? Perché questa sera alle 18, quindi tra poco meno di un'ora, andrà in scena la finale della Final Eight di Coppa Italia tra Varese e Siena. Solo qui diciamo che l'affluenza è dignitosa, gli ultimi si stanno accaparrando i biglietti in biglietteria. In questo momento sono arrivati un paio di pullman direttamente da Siena, perché ovviamente, come potrete immaginare, i tifosi biancorossi sono numericamente maggioritari. Ah, sì? Appunto, alcuni sostenitori biancoverdi sono arrivati pochi minuti fa. Ecco, non dare per scontato. Pronto Luca? Diceva, pronto Luca, mi senti? Dicevamo, non diamo per scontato la parte cromatica di queste squadre, perché non è detto che sia così scontato che poi gli ascoltatori sappiano, hai capito? Il Varese, i suoi colori sono il bianco e il rosso, mentre il bianco e il verde sono i colori storici della compagine senese. Ok. Ho qui un tifoso del Monte Paschissina che ha in mano un megafono. A 5 secondi. Qui direttamente da Siena, eri già presente nei giorni scorsi, un po' io e Molini di studio e di lavoro anche, ma siamo arrivati oggi in macchina da casual, tifosi della Mezzana, casual brigata. Ecco, avete capito? Il dirigente tifoso nella settimana ha studiato e ha lavorato e la domenica si dedica alla sua mamma. Ma guarda, ci stai dando delle notizie veramente tremende, voglio dire, in questo caso. Veramente, siamo veramente annichiliti da queste notizie. The roots, muchos han olvidado. I've been doing this desde el octavo grado. Así que si tú aprecias Spanish hip hop, then I got something for ya. Porque desde el principio I've been keeping it go, ya. Chequeate como sueno. Si es Puerto Rock Blades, entonces tiene que ser bueno. A la buena o a la mala. Ain't nothing but an ala. I keep it real like Mama Duke. Keep figuritas en la sala. Ma a voi, non vi hanno un po' scosso le ultime notizie che riguardano il Re Leone? Cioè. Cioè, diciamolo, cioè, il Re Leone Mario Cipollini che è stato certo che ci hanno scosso. Infatti tra un poco ne chiederemo anche a voi che cosa ne pensate, però nel frattempo abbiamo un altro collegamento. Vi ricordo, tenetemi ben stretto questo numero 824 0024. Tra poco chiederemo qualcosa ovviamente dedicato al buon Cipollini, e come avete vissuto questa notizia e soprattutto inutile anticipare perché tanto lo chiederemo con voi, ne parleremo con voi, cari ascoltatori e anche quelli non cari, diciamolo chiaramente, parleremo con tutti voi, saremo disponibili. Però nel frattempo noi adesso io andrei tranquillamente a trattare il tema di questo sport. Si chiama Building Run Up, Building Run Up. Building vuol dire palazzo, Run Up vuol dire correre verso l'alto. Sì, certo. Allora, per correre su un palazzo lo puoi fare all'esterno. Arrampicandoti come un matto, lentamente, però puoi farlo oppure con un gesto molto meno atletico, prendi l'ascensore e arrivi in cima. cima e questo, questo è lo sport che faccio io. Esatto. Penso, cioè, questo è l'unico, tra l'altro. Ti vedo fra i primi 10 in Italia della salita dei grattacieli con l'ascensore. Mentre c'è un altro metodo, che è quello di fare le scale. Sì, e che è quello più normale, più educato. Più... Esatto. No, vado io. Sai quelli che ti dicono vado io su a piedi, no? Ti trovi in quelli nei grattacieli. Vado io su a piedi, tranquillo. Voi prendete pure l'ascensore. È un po' quello che ha fatto un po' nella vita Daniela Vassalli. Pronto, Daniela? Pronto, ecco. Ciao. Tu sei sempre quella che quando siete in 5 o 6 c'è l'ascensore, ci stai in 3, ti dici ma no, vado io a piedi, e su a piedi. Esatto, magari anche con le borse. Anche ecco, vabbè, che porti sulle borse, vabbè, in questo caso. Daniela, allora, vediamo un attimo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'Empire State Building Run Up, che è la gara che si è svolta il 6 febbraio, qualche giorno fa, ed è la scalata dell'Empire State Building. Se non ho capito male, Daniela, 1576 gradini, esatto. 86 piani, un dislivello di 381 metri. Esatto. E ci si mette 10 minuti. Io ci metterei attorno alle 10 ore più o meno, ma proprio con soste intermedie per ossigenazione. Ma... Sì, è una forza, diciamo così, aerobica. Si parte, si arriva, ma non ci pensi più di tanto. Sì, pensi certo. Poi quando. No, ci pensi ecco, quando. Scusa, non ci pensi neanche quando decidi di farlo, però questo. Esatto. Ecco, no, perché poi non è così semplice, mi pare. Non quei è dieci... così semplice. Niente, si parte tutti insieme, purtroppo lì all'Empire è difficile, quello che è la partenza, si parte tutti insieme, non è a cronometro come a Dubai, e bisogna usare all'inizio i gomiti e poi la forza. Scusa, ma perché c'è un tour nel mondo, nei vari grattacieli? Esatto, io ho partecipato nel 2008, è un circuito mondiale scalate grattacieli, e avevo vinto questo tour nel mondo. Ma dai! Sì, è diciamo una cosa un po' atipica, una cosa diciamo anche nuova, una novità, sì. Per questo tour. Sì, non è che tutto il nuovo che avanza è bene, eh? Cioè, voglio dire, c'è alcune cose che magari si possono anche lasciare lì, però voglio dire, in questo caso, dove sei andata in giro a scalare grattacieli? No, sono andata in Spagna, sono andata... in Inghilterra, sono andata a Berlino e ho scalato diversi grattacieli, così mi sono avvicinata casualmente nel 2008 con le manifestazioni del Pirelloni, ero stata invitata, mi avevano detto insomma di parteciparvi senza conoscere né la tecnica per salire e non ho fatto nessun allenamento specifico, avevo fatto solo la battuta, mi sono allenata salendo le scale con le borse della spesa, certo. Sì. È stata una battuta. Sì. Scusa Daniela, perché mi stai dicendo che per salire le scale c'è una tecnica? Invece sì, probabilmente spontaneamente mi è venuta. Io le scale non le faccio tutte, nel senso non faccio ogni step, un gradino sì, uno no, uno sì, uno no. Ah, salti un gradino? Con regolarità. Ah. E poi non ho capito, scusa, uno sì, uno no, già mi mette ansia, scusa, cosa vuol dire uno sì, uno no? Nel senso non faccio tutti gli step, non ne faccio 1576, la metà. Salto un gradino, capito? Le ragazze... Invece fai due gradini alla volta, tanto per capirci. Ecco, questo capivo, no, se saltavo un gradino riuscivo a capire bene. Quindi fai due gradini alla volta per tutto il tempo, per 10 esatto. minuti in questo caso. Sì. I ragazzi lo fanno tre gradini? Non lo so, i ragazzi, loro magari sono anche più rapidi, più frequenza nel salire, poi ovviamente si utilizza anche le braccia, nel senso il passamano, io lo utilizzavo. E niente, mi hanno osservato, probabilmente quella era anche la tecnica giusta. Ah, perché il passamano è consentito, cioè puoi aggrapparti al passamano? Sì. Io mi sono aiutata anche con il passamano, poi non so. Quindi potrebbe essere scalata senza e scalata con, in questo caso, no? Come nel canottaggio, no? In questo, con passamano, senza passamano. Senti, ma tu ti sei allenato molto per fare... No, io così casualmente sono stata invitata, ma io facevo... gare tipo mezze maratone su strada, no, diciamo tu non ti allenavi diciamo a scalare grattacieli, però facevi le mezze maratone, che insomma non è che è proprio uno scherzo, maratone, ho vinto 7 maratone, ho fatto le mezze maratone, ma mi sono ecco avvicinata così casualmente. Ma è faticoso, cioè immagino che sia faticoso, ma è anche doloroso, diciamo un lavoro, penso lattacido, è un lavoro. Lattacido. Penso fare un 800 in pista, non c'è tanto da pensare, parti e arrivi. Sì, se riesci a arrivare, se no schiatti prima. Cioè, ricordiamo Daniela che tu nel 2009 in questa gara sull'Empire State Building sei arrivata seconda, quindi non è che sei... Mi sono stupita. stupita anch'io. Sì, in questo caso. Vabbè. Sono stupita perché eravamo in tantissime, non dicevo cosa ci faccio qui, invece no, veramente, ma anche muscolarmente, fisicamente, adesso non mi vedete, però ho il quadricipite ben sviluppato, sembro quasi una velocista, quindi magari anche quello mi ha portato ad avere più vantaggio rispetto a ragazze più filiformi, più agili. E poi gomitate, giusto? No, vabbè, adesso non è che... No, gomitate. Solo la partenza. Amichevoli. Solo la partenza, perché poi le lasci tutte indietro, esatto. Insomma, questo è il concetto. Sì. Perché se poi le gambe non vanno... Ti lascia indietro loro, quindi, in questo caso. Senti, Daniela, ma com'è che una persona decide di farsi 1500 gradini? Cioè, di sera... Ma è una sfida anche con me stessa. Certo. Perché se uno è razionale ci pensa. Daniela, qual è il grattacielo più alto? Dubai, ne hanno costruito un altro più no alto. Volevo sapere, no, questa non era una domanda di cultura generale. Ecco, quello lì l'hai scalato, quindi. Quello che ho fatto altri erano 1700, cose più rapide, 4 minuti. Vabbè, adesso qui a Milano, che è cambiato già la skyline di Milano, ci sono grattacieli ovunque, ci sarà. Esatto, anche... infatti ho vinto 3 volte l'edizione del Pirellone. Ma adesso ormai il Pirellone c'è lì. Le edizioni precedenti, le avevo... Senti Daniela, va bene, dai, adesso puoi portare su la roba, dai, i sacchi che c'hai. Senti, ma tu come ti alleni? Perché io mi domando come si allena, cioè... Non lo possiamo sapere. Possiamo saperlo. Come vuoi che si alleni? Fa la mezza maratona, allora, scusa. Allora, io lavoro in ospedale. Ecco, vedi. E faccio i gradini per salire in reparto. Sì, scusa, ha detto, vedi. Un allenamento. Grazie mille. Grazie Daniela. Grazie, ciao. A risentirci. Ciao, grazie. E vabbè, insomma, ecco, direi che è proprio uno sport che non farei mai nella vita. Già 2 o 3 piani c'è il fiatone. Possiamo, che parte. Possiamo considerarlo sport? Quello è un problema. No, possiamo considerarlo, non è solo calcio, caso qua, di dai e vai. Quello sicuramente. Però chi è che c'è? Andrea Zoli, l'allenatore della Roma. La decisione che hanno preso sulla situazione che sembrava calcio di rigore sul tiro del Pjanic nel primo tempo, invece gli arbitri hanno... Allora, per quelli che non lo conosco, Andrea Azzoli è tutto attaccato, non è Andrea Azzoli, capito? Questo è normale. No, quello è Azzoli. Andrea Azzoli, stiamo cercando di chiarire proprio le immagini, no? Perché ci sono 2 momenti. Sì. Luca Marchegiani, se ci vuoi aiutare, perché c'è un'immagine che ci fa vedere come ci sarebbe un fuorigioco, ma non nell'ultima parte, ma nella prima parte dell'azione. Lo raccontiamo noi al volo, perché tanto in questo caso c'è stato appunto un primo fuorigioco che però non è stato neanche preso in considerazione, e poi dopo viene stato fischiato invece un secondo che invece non era fuorigioco. E la mela segna. E il gol viene annullato. Vabbè, comunque niente di fatto. Come abbiamo già annunciato, cari ascoltatori, sicuramente ci ha toccato il fatto del nostro Re Leone, quello che allora era il Re Leone, adesso si capisce anche perché era un leone in questo caso. Adesso dai. Beh, scusa, adesso non è che, come vuoi dire, cioè facciamo finta di niente, adesso facciamo... Cosa vuoi dire, che era un gattino? No, però insomma, la favola di Cipollini è un'altra favola che crolla, è un'altra favola che se ne va, un'altra favola che ci intristisce. Noi ci avevamo creduto, che chi di voi non ci aveva creduto? Chi non era fiero di Cipollini? Pochi, voglio dire, in realtà, dell'atteggiamento di Cipollini, quando vinceva e stravinceva le varie gare. Ora, possiamo andare a qualche numero, tanto per capire. Di Cipollini: 189 vittorie, un mondiale, una Sanremo, 3 Gang Veghelgem. Scusi, bene, questo Gand Veghelgem. Non lo sai cos'è? No, tre Bergamo, cioè, no, Bergamo. Poi 42 vittorie al Giro d'Italia, che è record assoluto, 12 vittorie al Tour de France, 3 vittorie alla Vuelta, 6 giorni in maglia rosa al Giro, cioè ha vinto di tutto in quegli anni. Stiamo parlando più o meno dall'inizio degli anni 2000, e soprattutto il suo anno magico è stato il 2002, e sta alle carte che sono state pubblicate ieri dalla Gazzetta dello Sport, pare che dietro queste vittorie ci sia il doping del dottor Fuentes spagnolo. Sì. Pare, perché l'avvocato ha già detto. Non si è fatto mancare nessuna gara, ma non si è fatto mancare neanche delle altre cose, tipo trasfusioni, ormoni e via dicendo. Beh, noi ne parleremo con voi se avete voglia di parlarne, perché molti di voi dei ciclisti sono tristi e non ne vogliono parlare. E nel frattempo il paese parla: ma quanta neve verrà stanotte? Yeah! No, voglio dire, anche tu hai creduto in lui, dai, anche tu hai creduto in Cipollini. Beh, diciamo, credere forse è un concetto un po' forte. Era bello vedere con che facilità lui riusciva a vincere tutte queste volate. Appunto, ecco. Cioè, voglio dire, però il dubbio in qualche... No, Beh, mai, no, diciamo, mai, insomma. Sì, un po' di dubbi sono venuti. Cioè, dubbi ci sono arrivati un po' a tutti, a tanti. Dubbi in c'erano, caso. Anche perché tutto sommato poi, come ricordiamo, aveva detto Gianni Mura 2 settimane fa qua da Eva, ormai non ci sono più certezze nell'ambiente del ciclismo. Il rischio è sempre quello di essere sbugiardati dopo qualche mese, qualche anno, come sta succedendo adesso con Armstrong e nel caso di Cipollini da ieri. Lui si sentiva un po', come dire, preso in mezzo, anche perché lui è un po' stato sbugiardato un po' di volte, anche perché ci ha creato anche molte volte delle atmosfere, ha creato ovviamente dei personaggi. 824 0024, chi non ci ha creduto? 824 0024, chi non ci ha creduto? Voi in particolare, tra le altre cose, che state andando proprio in bicicletta, non proprio in questo momento, voi che andate normalmente in bicicletta. Anche no, c'è in la questo neve, momento. No, c'è la neve, non si può. No, no, adesso no, sta arrivando la neve, no, sta arrivando la neve, non si può. Cioè, no, non c'è la neve. Ma sono bloccate, chiudono le scuole, scusa, a Genova e a Savona. Genova e Savona, scuole chiuse domani. Tra le altre cose. A Milano hanno già detto non usate la macchina domani, non usate la solo macchina. Motorini, solo motorini. Che modi sono? No, dai. Questo qui è un po' di giusto, del sano allarmismo, della sana prevenzione, però 824 0024, voi che usate la bicicletta, voi che andate in bicicletta, voi che credete ancora nella bicicletta, intanto domanda, ci credete ancora nella bicicletta? No, e questa potrebbe essere l'altra vera domanda su quale che ci può... E poi c'è anche un'altra domanda, la famosa proposta fatta dalla WADA, dall'Unione Ciclistica Internazionale, di una commissione di verità e riconciliazione. Mi riempie la bocca questo termine, la commissione di verità e riconciliazione, per chiudere un capitolo che è quello che va da, diciamo, dalla fine degli anni 90 fino agli ultimi anni del ciclismo, cioè facciamo una grande amnistia, poi cancelliamo tutto quello che è stato e partiamo con un nuovo ciclismo. Ci crediamo a questa commissione di verità e riconciliazione? No, non solo, diventa proprio una roba tipo condono. Sì, un'amnistia. Un'amnistia, sì. Un condono, cioè il concetto è tiriamo una riga. Sì. No? Non vi mandiamo in galera, non vi denunciamo, non vi chiediamo dei soldi, magari voi dovete pentirvi in qualche modo, dovete dire delle cose, dovete dirci queste cose, che sì, è colpa mia, ho preso l'epo, ho preso insomma altre cose, delle sostanze che tu c'hai lì, tu gli ormoni davanti, della crescita, tutto lì davanti a te, non vuoi farmele vedere, insomma, esatto, l'ormone della crescita, le trasfusioni di sangue, l'insulina, le gonadotropine, quelle le hai prese. Giuro. Quelle pastigliette azzurre che prendo ogni tanto sono gonadotropine. Gli anabolizzanti, cioè tutte queste qua sono i farmaci che, secondo quello che è stato pubblicato ieri dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe preso Mario Cipollini. Poi in realtà oggi l'avvocato ha precisato: no, non ha niente, non fa riferimento a lui. Tutta questa queste schemi che sono stati presentati con il calendario, con tutti i giorni in cui lui andava a prendere o doveva prendere ormone della crescita, gonadotropine, eritropoietina, anabolizzanti, estrazione di sangue. Ma come ci ha scritto il nostro ascoltatore sul 349 238 6666, un sms che ci è stato inviato, ovviamente, era vero che cosa? Fan tutti? Era vero che cosa? Fan tutti? Sì. Perché è scritto anche abbastanza male, ma la favola di Cipollini era una cosa credibile? No? Beh, questo non lo so, dipende da voi. Comunque lui ha detto un po', alla fine ha dato un commento, SIG esatto. Sarebbe tra l'altro in questo caso un commento dispiaciuto in diciamo. Questo caso, cioè, diciamo che lui c'era cascato, lui ci aveva creduto in Cipollini un po' che come Luca Cancellara, giusto Luca? Pronto? Assolutamente. Beh, adesso non è che mi dovete addossare tutte queste cose, ma tu ci hai creduto un po', Luca, tu che vai in bici, tu che ti muovi in bicicletta, che credevo nella sua piastra per i capelli, poi quando ho smesso di credere in quello, ho smesso anche in credere nell'uomo Cipollini. Vabbè, insomma, comunque tu ci hai creduto in Cipollini come ci credevi anche in Pantani, anche un po'. L'importante è credere in me stesso, quindi per ora, come dicevamo prima, bevo soltanto acqua e menta, per quelle sostanze dopanti per ora non fanno parte. Sì, ma non è che siccome devi credere in Cipollini anche tu devi fare di l'emotrasfusione, cioè voglio dire, ci credevi perché ti piaceva Cipollini, voglio dire, non è che questa è una cosa drammatica, no? Voglio dire, a me Ben Johnson tutto sommato mi sembrava una persona simpatica, poi dopo di che uno era dopato, però era simpatico, voglio dire, per quei 9 secondi ci hai creduto. tutto tu. Ma anche prima, anche prima, anche quando si stava scaldando, mi sembrava brillante anche nel suo modo di apportarsi. Comunque 800 24 0024 per quelli che vogliono parlare di Cipollini. Nel frattempo vi diciamo che cosa sta accadendo al Forum d'Assago. Pronto, Luca? Eccoci, quindi manca poco meno di mezz'ora alla finale della Coppa Italia tra i biancorossi di Varese e i biancoverdi di Siena. Nel periodo non collegato però si è creata una situazione particolare, perché insomma ho intravisto da lontano un gruppo di persone che avevano dei colori terzi che non riguardavano questa partita. In particolare mi sono avvicinato e ho scoperto essere i ragazzi bianco-blu della Fortitudo Bologna Basket. Sono qui con uno di loro, con Sandro. Sandro, la partita è Varese-Siena, voi cosa ci fate qui? Abbiamo soprattutto, siamo qui per tre motivazioni. Una è quella di riportare il tifoso al centro del movimento basket, visto che all'inizio di questa organizzazione sembrava che comunque ci sarebbero potuti essere parecchi divieti legati ai tifosi e alla loro presenza a questa manifestazione. Sì, infatti dobbiamo dire che il palazzetto è abbastanza controllato, però prima, quando siamo arrivati, con la situazione finora è più che tranquilla insomma, è andata bene. Però all'inizio si sapeva, o comunque si erano arrivate voci, che comunque le questure avrebbero voluto vietare la partecipazione dei tifosi per motivi di ordine pubblico. Ma il vero motivo per cui siete qui è perché volete riportare alla ribalta e non far cadere nel dimenticatoio la situazione, direi, tragica della vostra gloriosa squadra. Sì, siamo qua anche per cercare di far capire e far passare a livello nazionale che la situazione della Fortitudo non è quella che viene passata dagli organi ufficiali, perché ricordiamo che la Fortitudo dall'estate del 2012 praticamente è scomparsa. E qualcuno in questo momento a Bologna si vuole appropriare di questa, del futuro della Fortitudo. Noi non condividiamo questo progetto e siamo qui oggi per cercare di far capire a tutta Italia e agli organi federali che comunque la prosecuzione di Fortitudo non può passare attraverso il progetto di Romagnoli e della sua Bianco Blu Basket. Adesso che entrate, fate il tifo per una delle due, e non vi interesserà tutto quello che succederà in campo? No, non ci interesserà quello che succederà in campo. Fondamentalmente oggi la motivazione era quella di far capire che il tifoso deve rimanere al centro del progetto basket, cercare di far capire che è una situazione fondamentale per buon proseguimento del movimento del basket, soprattutto che in questo momento si sono insediati i nuovi organi federali. E poi ovviamente porteremo quelle che sono le nostre ragioni. Ok, allora, Luca. A Milano e ad Assago il tempo è limpido. Sapete che quando tornerete a Bologna ci sarà la No, Luca, Luca, Luca, Luca, Luca, tranquillizzati un attimo, fermati, dopo torneremo di nuovo a te. Nel frattempo andiamo avanti con il nostro dibattito legato a Cipollini, che tu non hai voluto rispondere, vorrei ricordarti questo aspetto. No, pronto? Sei ancora lì? No, come non lo... Tu non hai voluto rispondere. Noi andiamo avanti ovviamente sul nostro dibattito legato a Cipollini. Volevo dirti anche soltanto, nel prossimo collegamento ci racconti poi com'è questa finale. Ciao, grazie, ci sentiamo. Ciao, ciao. Pronto, Giorgio? Sì, ciao. Ciao. Allora, ciao. Tu ci credevi? Tu ci credevi? Io ci credo in Cipollini. Ancora adesso? Sì, per me le emozioni che mi ha dato rimangono. Ah, certo. Quelle che mi ha dato Pantani. Poi io da ciclista non professionista dico anche che è ora di fare un discorso serio sul doping. Cioè, quale sarebbe? Dalle carte del dottor Fuentes risultano nomi di sportivi di tutti gli sport, sì, non solo ciclisti. Però chissà come mai saltano fuori solo i ciclisti, solo gli italiani. Quindi tu vivi un momento di complotto nei confronti del ciclismo italiano? No, dico solo che allora i risultati degli atleti spagnoli sono sotto gli occhi di tutti. Un dubbio viene, o no? Sì, il dato di fatto però non è che il fatto che ci siano anche altri sportivi che non sono stati beccati cancella il doping del ciclismo, hai capito? Vogliono beccarli, è quella la differenza. Sì, ma qual è il problema? È che allora se un calciatore si rifiuta di fare l'antidoping non succede nulla. se un ciclista si rifiuta di fare un controllo antidoping, lo mettono in galera all'istante. Sì, ma quello che non riusciamo a capire bene di quello che stai dicendo è il problema è che della sostanza, in nella sostanza, dico non a caso, della sostanza, in questo caso loro si accaniscono sullo sport, sul ciclismo italiano, mentre invece dovrebbero accanirsi su tutti gli altri sport anche, giusto? Anche, spero. No? La Federazione Spagnola del Ciclismo sì. è meno rigida rispetto a quella italiana. Sì, non ne fa però degli... Cioè, almeno nel ciclismo si tenta di combattere il doping. Sì. In Italia specialmente si tenta di combattere il doping. Beh, malamente a quanto pare, no? Ma malamente no, perché un ciclista professionista... Ogni 3x2. Un ciclista professionista è come agli arresti domiciliari. Cioè, tu dici che adesso sono delle vittime adesso i nostri ciclisti professionisti? Non sono delle vittime, però se io scelgo di fare il ciclista, metto in conto che non posso andare a fare un giro al lago con la ragazza la domenica perché mi può arrivare il controllo antidoping. Beh, ma questo mi sembra marginale rispetto alla quantità di doping invece che si fanno i ciclisti, caso. Mi piacerebbe che però gli stessi controlli antidoping si facessero anche negli altri sport in maniera seria. Sì, ma sono fatti, tant'è vero che Schwarzer è stato preso in un controllo a sorpresa e anche lui, come altre discipline sportive, hanno i controlli a sorpresa, tanto per fare un esempio. Grazie Giorgio, grazie. Andiamo con Filippo. Pronto Filippo? Pronto, buonasera. Da dove chiami? Chiamo da Urbino, in provincia di Pesaro. Sta nevicando? No, ancora no, però dicono che arriva. Lo so, c'è lì che stiamo monitorando. 824-824-0024 per quelli che vogliono ancora partecipare, ovviamente telefonare qui direttamente, in diretta, sì. Dici? Niente, che secondo me fa sorridere anche l'ascoltatore che mi ha preceduto, nel senso che non bisogna essere bigotti, cioè uno sport di endurance, di fatica come il ciclismo, se vogliamo che sia più pulito, bisogna rendere le corse a misura d'uomo. Cioè fare quello che fanno i ciclisti in un Giro d'Italia, quello che fanno in una settimana, quasi una moto farebbe fatica a mantenere quei tempi. Filippo, resta lì, guarda, ci interessa moltissimo quello che stai dicendo, resta lì perché intanto c'è il traffico. Dai e vai, non è solo calcio. Al 349-238-6666, dove potete mandare i vostri messaggi, ci è arrivato: ma perché le previsioni del meteo non parlano mai della Valle d'Aosta? Ma sai che me lo sono chiesto anch'io? Guarda, ne discuteremo sicuramente stasera, tra l'altro ci sarà uno speciale su questo, direttamente. La Valle, dov'è? Dov'è la Valle? È là in cima, comunque giuro, dalle 22 alle 23, dai e vai, speciale meteo Val d'Aosta. Vuoi dire che adesso tu non vuoi ascoltare il meteo della Val d'Aosta? Figurati, è un problema che sento proprio come mio. Vabbè, certo. Scusa comunque Filippo, parlavamo invece di cose più serie in questo caso. Perdona, però arrivano dei contributi dai nostri ascoltatori. Secondo me Filippo potrebbe saperlo, perché le previsioni meteo non parlano della Pesaro, di Pesaro. Ma secondo me lui lo sa, perché è uno che ne mastica. Perché sono troppo lontani. Visto che lo sapeva. Certo, meno male che non parla della Sicilia. Chiedono ai francesi. No, però allora tu dicevi quindi che per fare il Giro d'Italia bisogna avere un motorino, insomma. Esatto, no? Cioè per mantenere quei ritmi che mantengono loro, per forza una persona normale non può resistere. E quindi se vogliamo quello spettacolo dobbiamo mettere in conto che questa gente deve assumere delle sostanze. Poi chi ne assume di più viene beccato, chi ne assume meno non viene beccato. Io sono appassionato di sport di endurance, faccio da 10 anni running. Spiega bene, perché hai detto due cose di cui non sappiamo assolutamente nulla. No, sport di fatica, faccio corsa a piedi. Dillo come si dice, ormai. Esatto. Fai corsa. Quindi, esatto, è uno sport di fatica. Io da 10 anni esco 3 volte la settimana, ma i miei tempi non è che migliorino più di tanto, perché non prendo neanche gli aminoacidi nell'acqua. Perché comunque Filippo, fatti delle domande e dati delle risposte, se non migliori. Quindi se tu vuoi dei risultati che sono fuori dalla portata di un essere umano, devi fare qualcosa. Quindi io il ciclismo non lo guardo, perché solo a vedere una tappa capisci che queste persone non sono normali, così come tanti altri sport. Cioè il calcio, giocare 7 giorni su 7, un giocatore per resistere comunque dovrebbe essere aiutato, non lo so. Un aiutino quindi, bisogna darglielo, insomma. Esatto, bisogna essere meno bigotti, cioè vogliamo quello spettacolo, mettiamo in conto che questa gente per resistere deve fare certo tipo di cose. Io adoravo Pantani come adoravo Armstrong, ma mentre lo guardavo non ero... Avessi azzeccata una, No, non ero stupido, dicevo, è chiaro, per, a quei livelli lì sono più bravi degli altri a assumere sostanze. Però perché... Ben Johnson meno, l'adoravi meno. Ben Johnson, no, ma guarda, però, ti ripeto, io faccio sport e esco 3 volte alla settimana. Sì. E so cosa significa faticare e vedo che i risultati non arrivano, cioè mi devo accontentare di quello che il mio corpo mi può dare. Guarda, se ben ricordo, era Mennea che diceva queste cose, tra l'altro diceva, io tutti i giorni vado ad allenarmi, faccio i miei 100 metri, i miei 200 metri. E risulta che arrivano, e che arrivavano i risultati, ma io riuscivo a migliorare pochissimo, esatto. Facevo una fatica pazzesca per migliorare. Questi di botto fanno delle cose incredibili. Grazie Filippo, a risentirci. Grazie a voi, buona serata. 824 0024, Nicoletta. Ciao Sergio, noi ciao. Stiamo tornando da Ivrea. La tua amica, hai capito? Ah, beh, quindi l'unico, no, l'unico vero gesto atletico che ha un senso in questa giornata, esatto. lo ricordiamo, è la battaglia delle arance del la Carnevale di Ivrea. Che oggi è stata spettacolare. Grazie. Lo so, certo. No, grazie. Certo. E pensavo di vederti tra il pubblico. Vabbè. No, comunque, no. Se vuoi le meteo, oggi c'era il sole, ma adesso sta arrivando brutto, domani e dopo ci sarà sì. un po' di nevicchia. Che bella notizia. Grazie moltissimo, è una situazione abbastanza imbarazzante. Io comunque non vado nel pubblico, vado a tirare. No, proprio. Lo so che vai a tirare. Ah, ecco, ecco. Lo so, va bene, senti, grazie per il grazie, meteo. Tanti auguri, ciao. Ma scusa, sul doping di Cipollini non vuoi dire niente tu, Nicoletta? Ma sul doping di Cipollini cosa vuoi dire? Cioè, adesso diminuiscono le sensibilità dei test, quindi prima o poi li vedranno tutti. Ah, ecco. Cioè, diminuiscono le sensibilità dei test? Cioè? Certo, cioè, perché si è abbassato il limite di detection e quindi loro probabilmente lo sono sempre stati, solo che i test non li vedevano. Ah, cioè stai dicendo che i test sono più accurati, quindi adesso certo, li beccano, certo. Mentre prima non li beccavano perché non erano accurati. Ma i test sicuramente. Ecco, Nicoletta, ma domani non torni alla battaglia delle arance, il carnevale? No, domani no. E certo, domani nevica, veniamo noi a tirare, domani, infatti. Grazie, a risentirci. Ciao, a presto, ciao. Vabbè, insomma, hai capito, Nicoletta? I test, il detection. Sì. Hai capito? Non fa tanto lo spiritoso, che domani sei lì al freddo e al gelo a tirare le arance. Domani mi faccio di detection. Io cosa fai? Di detection. Sì, vedrai detection. Che... Sì, sì, di detection. Ti vai, fai quel che vuoi. Va su. Watch this. Sono comunque altri scandali in giro. Stiamo dando una bella immagine dello sport. No, oggi. Ma non è colpa nostra. Se lo sport è questo, non è che possiamo fare finta che non accada nulla, no? Cioè, in questo caso, sì, ci sono belli atleti, tutte queste cose. Per esempio, non male il gol di Matri ieri, no? Cioè, facciamo un po' ridere, però. Vabbè, quello senza scarpe. Senza scarpe, senza scarpe. L'anno no? della Juve, quando segna anche senza sì. scarpe. Il nostro l'anno della Abele, Juve. Abebe. Bichila. Il nostro Bichila della Juventus, il nostro Bichila bianconero. Lui aveva le calze, Bichila era era scalzo tra l'altro, vabbè, perché neanche un'altra temperatura, era Roma e faceva caldo, caldo, però c'erano i sanpietrini. Vai tu a correre senza scarpe con i sanpietrini. Senti, parliamo di questo, di quest'altro scandalo, no? Dell'operazione come Veto. Operazione Veto, 400 partite truccate in Europa, sarebbero coinvolti dirigenti, arbitri, calciatori, tutto questo nell'ottica e nel mirino dell'Europol, la polizia europea. Sono appunto circa 400 le partite sospette, 150 quelle accertate, ce ne sono altre 300 in Africa, Asia, America Latina. Cioè la descrizione che viene data è quella di un mondo del calcio in cui per le scommesse si truccano moltissime partite anche ad alto livello, stiamo parlando anche partite di Champions, non è che stiamo parlando di serie C, Lega Pro, campionati minori europei. Ne parliamo con Antonio Ferretti della radio televisione svizzera italiana. Pronto Antonio? Pronto, ciao, buonasera a tutti. Ciao, ci diamo del tu, no? Ovviamente, no? In questo caso siamo colleghi e siamo ci conosciamo, quindi mi fa piacere. Ecco, colleghi è un termine un po' forte, comunque grazie. Sì, no, comunque. No, allora, tu hai affrontato questo tema, no? Ovviamente delle scommesse, e sei riuscito ad avere anche intanto una visione non soltanto localistica, italiana, dove tutto quanto è centrato su quello che accade o in Napoli o in Conte o Atalanta, o sono sempre quelle che poi sì, vengono beccate. Molto ombelicale nazionale. Sì, sì, no? Ecco, tu hai una visione, a questo punto sei andato un po' oltre e hai scoperto anche delle cose, tra l'altro delle partite svizzere, del campionato svizzero, ma non soltanto del campionato svizzero, del campionato, dei vari campionati che ci sono anche in Europa. Allora, che cosa hai scoperto, e soprattutto questa notizia ti ha un po' stupito? No, immagino, perché... Ce l'aspettavamo, in effetti si parla, ad esempio per quanto ci riguarda, noi siamo partiti con questa inchiesta soprattutto pensando al calcio svizzero, sulla scorta, diciamo, di quanto stava uscendo dalla procura di Cremona, e visto che Roberto Di Martino, il procuratore, aveva indicato più volte come il fenomeno, almeno nell'Europa occidentale, fosse proprio partito dalla Svizzera, dal Canton Ticino, quindi siamo partiti da questo per cercare di capire cosa ci fosse in Svizzera, e in effetti non siamo rimasti stupiti dall'esito di questa inchiesta di Europol, perché poi vengono indicate ad esempio 41 partite del campionato svizzero, quindi grosso modo erano quelle che eravamo riusciti ad individuare in questo nostro viaggio attraverso questo brutto affare del calcio scommesse, quindi non ci ha per nulla meravigliato, in effetti è un fenomeno che si sta allargando, che è molto presente, non sappiamo se continuano a truccare le partite per scommettere, ma comunque in questi anni, dal 2007 o meglio 2008 fino almeno allo scorso anno, le truccavano di partite, in effetti. Ecco, ma quindi, cioè, diciamo, a Singapore si scommette sul campionato svizzero? La cosa che ha sconvolto un po' tutti da noi, il campionato svizzero, ma non tanto il campionato svizzero di Serie A, che da noi si chiama Super League, ma il campionato svizzero di Serie B, cioè la Challenge League, che è un campionato di non altissimo livello, normalmente non ci sono delle dirette sulla TV nazionale, ora dall'anno scorso ce ne sono alcune, ma non è un campionato sotto i riflettori, ma è proprio per questo motivo che agli scommettitori fa buon gioco, perché se ci sono dei risultati strani, se ci sono delle partite che finiscono in un modo rocambolesco con parecchi gol, nessuno si scandalizza, proprio perché non c'è una diretta ed è più difficile andare a vedere il singolo episodio e l'errore commesso, diciamo, appositamente da un giocatore o dal portiere. Quindi inizialmente molti si stupirono del fatto che, non so, a Singapore si scommettessero dei milioni di euro su una partita del Locarno, che è quasi ultimo, sì. Ora è proprio ultimo anche nella nostra Serie B, ma era una delle squadre più deboli, eppure si scommetteva su queste. Cioè, si può dire che la Svizzera è stata usata come località di test per poi vedere se il sistema funzionava? Perché magari non c'erano gli occhi puntati come nei grandi campionati europei? Esattamente, questa era stata la tesi di Di Martino a Cremona, e tutta ancora da provare quando poi ci saranno i processi, ed è legata molto all'arrivo in Svizzera, nel Canton Ticino, di questo Almir Cecic, che sicuramente, come sapete pure voi, è in prigione, in carcere a Cremona da fine novembre, e non esce dal carcere perché non sta raccontando la verità. Da Antonio, resta con noi, perché adesso sta arrivando il GR, ma subito dopo proseguiremo questo dialogo che ci interessa moltissimo, anche perché ci arriveranno anche altre notizie. Dai e vai, non è solo calcio. È solo un gioco, ma... Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? Non si sa se è solo un gioco? No, non è soltanto un gioco, anche perché ci scommette un sacco di gente, e questo è Dai Vai di Radio 24, e stiamo parlando proprio di questa specie di, come si chiama? Operazione Veto, esatto. Qualcosa del genere, Operazione, ecco, Veto. Che ha coinvolto quante squadre? Perché, 400 partite. 400 partite, esatto. 400 partite, quindi siamo un bel po' di squadre coinvolte. Ne parliamo con Antonio Ferretti della Radio Svizzera, Radio Televisione Svizzera Italiana. Pronto Antonio, rieccoci, no? E ci stai? stavi raccontando delle cose abbastanza interessanti, cioè quanto veniva scommesso a Singapore sulle partite svizzere. È un po' anche la vostra grande sorpresa da questo punto di vista, no? Sì, effettivamente si pensava che il nostro campionato, soprattutto di Serie B, fosse un campionato poco seguito all'estero, senza grandi motivi di interesse. Invece abbiamo scoperto che c'è un movimento notevole, insomma, attorno a queste partite di squadre poco conosciute. In effetti questa agenzia di scommesse, che ha denunciato tutta una lunga serie di partite alla procura di Cremona, di Bari, ma anche a questa Europol, ci aveva poi detto che il nostro campionato di Serie B è fra i più corrotti d'Europa, e anche loro si sono meravigliati, perché si sapeva la Bulgaria, l'Ungheria, la Turchia erano paesi dove la corruzione è presente nella società civile a diversi strati, però in Svizzera, dove il livello di corruzione è bassissimo, non si pensava che il calcio invece fosse così corrotto. E probabilmente tutto è partito dall'arrivo di Almir Cecic nel 2007 a Chiasso. Lui proveniva da Istanbul, dall'Istanbul Spor, una squadra che era già stata coinvolta in problemi, insomma, di corruzione, di partite truccate, e stando a quanto emerso dalla prima ondata di inchiesta a Cremona, sembra che Cecic abbia importato in Svizzera, a Chiasso, questo sistema, e abbia fatto le prove generali nel piccolo Canton Ticino. È tutto da provare, naturalmente, perché i diretti interessati negano. In Svizzera, a differenza dell'Italia, non abbiamo le intercettazioni telefoniche che possono inchiodare un accusato o un testimone. Da noi non c'è stata una vera e propria inchiesta, e quindi dobbiamo aspettare proprio le risultanze. E non ci sono neanche pentiti, a quanto pare, giusto? No, non ci sono pentiti, anzi tutti negano, ecco, anche coloro che sono stati coinvolti, accusati abbastanza pesantemente a Cremona, tipo Matteo Gritti, che era il portiere del Bellinzona, ma in precedenza lo era stato a Chiasso quando è arrivato Cecic, poi è stato a Lugano, dove c'è stata tutta una serie anche lì di partite che sono molto sospette. Tutti negano, e dobbiamo aspettare proprio forse anche le dichiarazioni di Cecic, sperando che dica finalmente la verità. Ecco, di Gritti però, cioè, adesso dove è andato a finire Gritti? Ma Gritti, esattamente dove sia in questo momento, lui è vicino a Bergamo, e so che ha fatto 5 giorni di carcere a Cremona il mese di giugno, e poi ha fatto gli arresti domiciliari. Noi l'abbiamo incontrato a fine giugno, dopo la fine degli arresti domiciliari, abbiamo fatto una lunga intervista con lui. Lui comunque ha negato tutto, ha detto ad esempio di essere stato minacciato, perseguitato anche da Ilieschi, quell'altro, il complice di Cecic, ma di aver sempre rifiutato. Comunque anche lì ci sarà un processo e si vedrà. Ecco, tra l'altro Cecic, ricordiamolo, non è arrivato come persona che voleva semplicemente condizionare le partite, ma come giocatore. Lui giocava nel campionato. Giocava, sì, era anche discretamente apprezzato, era un buon centrocampista, difensivo, e ha giocato diverse stagioni, anzi giocava ancora quando è stato coinvolto nell'inchiesta. Dal Chiasso era passato in una piccola squadra di leghe inferiori, ma continuava a giocare. Ciò che era abbastanza curioso è che Cecic in Svizzera percepiva addirittura la disoccupazione. Da noi i lavoratori, come anche in Italia del resto, versano una quota all'assicurazione disoccupazione, se perdono il posto di lavoro possono percepire una disoccupazione. Lui, avendo perso il posto da professionista o semiprofessionista nel Chiasso, l'ultimo anno, cioè a fine 2011, percepiva anche l'assicurazione disoccupazione, e a quanto sembra nel frattempo girava mezza Europa nei ritiri delle squadre di calcio, soprattutto quelle italiane. E quindi è un personaggio abbastanza curioso. Ecco, Antonio, questa operazione veto è l'ultima di una lunga serie che è destinata a proseguire, oppure siamo arrivati alla fine? Cioè abbiamo scoperto diciamo il top di queste partite sospette, perché 400 sono veramente tante. Sì, 400 sono tante, credo che molte siano le stesse, diciamo sono delle partite truccate in comune, scoperte dalle varie inchieste, che sia quella di Cremona, quella di Bochum, che è stata la prima ad avviare una grande inchiesta in Germania, e altre che poi si sono sviluppate ad esempio in Finlandia, dove anche lì questi singaporiani hanno iniziato le prove generali con questo Wilson Raj Perumal. Sì, prove generali, ma lo spettacolo quando si fa? Perché qua se sono tutte prove generali, cioè... Le prove generali su come funziona il sistema calcio scommesse, in effetti sui soldi che arrivano da Singapore, su un determinato risultato, soprattutto il numero dei gol, il numero dei gol segnati nel primo tempo, o varie, insomma, chi calcia il primo calcio d'angolo, chi estrae il primo cartello, insomma ci sono tante componenti, ma quella che sembra renda di più finanziariamente è l'over. E quindi, cioè, quello è il numero dei gol, oltre un certo numero di gol nell'ambito della partita. Bene, noi ti ringraziamo intanto, Antonio, per quelle cose che ci hai detto. Ovviamente immagino che tu continuerai a seguire attentamente e quindi ci illuminerai anche quando poi ci saranno altri scandali, per capire se ci sono stati ancora dei precedenti. Grazie ancora per la tua disponibilità. È stato un piacere. Grazie, buona serata. Bene, no, però intanto tra i vari scandali continuano ad arrivare anche dei messaggi che riguardano ovviamente tante varie cose che abbiamo parlato oggi. Arrivano al 349-238-6666 per gli SMS. Ad esempio Marta da Treviso ci scrive: sono curiosa di sapere i nomi di questi altri sportivi che sarebbero coinvolti nell'operazione Puerto del dottor Fuentes, perché per adesso si sanno solamente i ciclisti, gran parte dei ciclisti, mentre soprattutto gli atleti spagnoli sono tenuti all'oscuro. E un altro SMS sempre sul 349-238-6666 ci dice: guardate che anche la buffonata del ritiro dell'attività, in questo caso stiamo tornando a parlare di Cipollini, che a metà del 2002 aveva annunciato il ritiro, la buffonata del ritiro dell'attività poco prima del mondiale era finalizzata a bombarsi senza avere controlli a sorpresa. Più forte di me, non riesco a tagliarla questa, capito? Cioè, because proprio, the night mi prende proprio al cuore, cioè, capito? Non riesco, la patti, non riesco proprio a sfondare, via. Sergio, pronto? Pronto? Buonasera. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Sì, dici tutto. Ma no, niente, vabbè, io volevo rifarmi un attimino al discorso di Cipollini. Di Cipollini, infatti. Io speravo sinceramente di avere un'altra notizia, che Cipollini fosse andato forte, forse perché avesse la bicicletta dopata. Ecco. Perché avete letto anche voi ultimamente che esistono anche le biciclette dopate. Sì, quella di Cancellara. Bravissimo, soprattutto quella di Cancellara. Per Luca. Me, diciamo... No, non resta... Luca. No, sono biciclette che riescono a sviluppare dei watt, che effettivamente anche un motorino, un 90 di cilindrata, magari non riesce ad arrivare a certe velocità. Ecco, cioè, Sergio, spieghiamo velocemente come funziona. Cioè, c'è una specie di motorino nel canotto dove... Sai dove metti il sellino? Praticamente nel movimento centrale c'è tutto un insieme di pignoni che girano, c'è una batteria nascosta, un po' occulta, potrebbe essere anche la borraccia che funge da batteria, e poi ci sono tutti i meccanismi legati alla... Insomma, che dà un aiutino, gli dà un aiutino, insomma. Dà un aiutino che, diciamo, è un aiutone più che un aiutino, soprattutto per un velocista nella fase finale, diciamo, di una gara. Lì, diciamo, anche lì è doping, però diciamo un doping che fa forse meno male. Ma sai, più che doping lì è proprio truffa, mi sembra, no? Beh, cioè, in questo caso. Ma d'altronde anche è una truffa per tutti quanti, diciamo. Secondo me bisognerebbe partire proprio dalla fonte, dalle case farmaceutiche, e anche per le emissioni di certe sostanze secondo me dovrebbero esserci dei controlli più approfonditi, cioè anche da parte dei dottori, perché secondo me la colpa principale secondo me sono sempre i dottori. Ma all'inizio su questo è un problema, anche perché anche se ti dico certi prodotti si trovano anche su internet, che fa ancora più paura. Tu li hai presi, facci capire. No, perché mi sembra un po' esperto. Io sono un ciclista, io sono sono un ciclista anch'io e sento anche non solamente tra i professionisti, anche tra gli amatori, che la cosa è molto più grave e diciamo che colpisce anche quel settore lì di sportivi, insomma, anche le classi inferiori. Eh beh, certo. Anche tra i giovanissimi. Ecco, tu che sei ciclista, a che livello? Amatore, quindi fai le gran fondo queste qua? Faccio le gran fondo, perfetto, faccio le gran fondo. E quindi che cosa prendi? Ma guarda, al di là degli integratori, al di là di questo assolutamente non però Sergio, detto francamente, tu dentro sei lì adesso che stai pedalando gran fondo, ti vedi, a un certo punto ti vedi passare uno che dice o c'ha il motorino sotto il sellino oppure cioè, qualcosa è successo. Cioè, tu evidentemente, guarda, ti dico che adesso anche nel mondo delle gran fondo, diciamo, quelli che vincono adesso provengono tutti dal mondo del professionismo. Quindi difficilmente troverai un amatore come me che può vincere una gran fondo. Al massimo ti puoi confrontare con i tuoi amici. Ma quanto ti fa arrabbiare questo? Un centesimo anziché di 190esimo, hai capito? Per noi la soddisfazione è quella lì. Ma quanto ti fa arrabbiare questo? Ma mi fa arrabbiare il fatto che ex professionisti vengano a confrontarsi, che magari sono quelli che non hanno avuto di successo, non hanno avuto di futuro, vengono lì a scontrarsi contro delle persone che lavorano 8 ore tutti i giorni e vanno in bicicletta magari il sabato e la domenica. Ti dico che vabbè, magari anche la sera magari si fa qualche seduta d'allenamento, certo. Però non possono venirsi a confrontare con gente come noi, cioè fate delle gare a parte. Allora, se non avete avuto successo tra i professionisti, perché dovete venire lì? Perché riescono a averlo lì, a rompere la pace tra di noi, tra di noi, diciamo. Va bene, quindi, grazie Sergio, grazie, buona serata. Grazie, ciao, pronto, voi. Walter. Un attimo che è in bagno. Dove sei, Walter? Walter? Sì? Eri in bagno? No, sono adesso stavo portando fuori il cane. Ah, ecco, perfetto. Mentre vi ascoltavo. Ah, ecco, vabbè. Allora. Che cane hai? Ma un bastardino. Ah, si chiama? Dunque. La domanda è facile, eh. Come si chiama? Marvin si chiama. Come okay, Marvin Agra. Okay, okay. Però fa freddo, Walter. Sentiamo proprio. È normale, vai. Per noi che siamo qui a Milano, ormai diciamo che prendiamo di quelle escursioni termiche che sono strepitose. Senti, va bene, senti. Passiamo dai più 40 di qualche mese fa ai meno 10, meno 15, come ridere. E sopravviviamo senza doparci. Ah, è giusto. Ecco, vabbè. Allora, dici una cosa, Walter. Allora, cos'è che ti ha turbato su questa storia di cipollini? Ma soprattutto il fatto che dopo, 10 anni, 12 anni, sì, uno salta fuori a dire questa cosa qui, che sarà vera o non sarà vera, questa sarà appunto da appurare, ma finché non ci sono le prove subito dopo mi sembra assurdo, no? A questo punto ognuno può saltare fuori e dire ma non è proprio che ognuno non è proprio così, perché intanto benvenuta inchiesta giornalistica mi viene da dire, perché è uno dei rari casi in cui c'è un'inchiesta giornalistica che ha tirato fuori i nomi i documenti di questo evento, e quindi questo è un primo dato da questo punto di vista, perché sennò gli altri non li avrebbero tirati mai fuori tra l'altro i nomi. Essendo italiano mi piace proteggere i nostri atleti, no? Anche se poi davanti all'evidenza mi tocca arrendermi, e soprattutto mi tocca rendermi conto che c'è una gran massa, come diceva l'ascoltatore prima, una gran massa di persone che fanno uso di doping, soprattutto a livello amatoriale. A livello professionistico ce ne accorgiamo vedendo anche gli ultimi successi al Tour de France o al campionato del mondo, perché tra un po' prenderanno anche Higgins e il suo gregario. Adesso non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo. Non può venire a raccontare che uno va forte in montagna a cronometro e in volata. Esatto. Cioè, che razza di atleta sei? È come se Ben Johnson fosse stato forte nei 100, nei 10.000 e nella maratona. Esatto. Walter, fra un 12 anni vedrai che lo trovano positivo anche lui, stai tranquillo. Però Walter, tanto per darti un'idea, tutti quelli che hanno fatto le analisi alle Olimpiadi di Londra no? Sì. Saranno soggetti a controlli, perché hanno preso le analisi, i campioni, le hanno messe, le hanno ghiacciati, e per nei prossimi 4-5 anni controlleranno tutto quello che è accaduto a Londra. E quindi può darsi che uno che ha vinto tra 5 anni venga beccato, no? E in qualche modo individuato. Tieni sempre presente che comunque il doping è molto, ma molto più avanti, spesso e purtroppo volentieri, molto più avanti di tutto quello che è l'antidoping. E quindi questo è il problema di riuscire a beccarli. Sicuramente, diciamo che già ha iniziato dagli anni 60, 56 o 60, durante le Olimpiadi, lì dove si sono visti dei risultati eclatanti, dove le misure, soprattutto nei lanci, erano superiori di un bel po' di metri rispetto alla media. Così, e poi man mano c'è stato il crescendo, no? Crescendo dovuto sicuramente a una richiesta per quanto riguarda un business economico, forse anzi senz'altro, da parte delle aziende farmaceutiche che producono questo tipo di farmaco o farmaci vari per potenziare di più l'uomo. Va bene, senti Walter. Donna. Se poi andiamo a vedere la Kratos Kilovan, scusate, sì, ve la ricordate? Sì, certo. Aveva più dell'uomo che della donna, ricordiamo tutti. Faceva gli 800 piani, giusto? Senti, comunque guarda, che ci va di mezzo siamo noi poveri, come si può dire, noi poveri tifosi. Così ci piace vedere. Ci sta andando di mezzo anche il tuo cane, ti dico, perché non lo stai portando fuori, però, in questo caso, Sei già fuori? No, nel senso che non lo stai portando fuori in questo passaggio qui. Sono già a passeggio. Non si sentiva niente, voglio dire, in questo caso. Ciao Walter, grazie per la telefonata. Grazie. Complimenti, siete grandiosi. Mai quanto te, Walter. Come porta fuori il cane, lui non lo porta nessuno. No, davvero, cioè, guarda, è bravissimo. Potevamo chiudere qua, no, il capitolo scandali. Sì, diciamo l'immagine dello sport oggi. L'immagine dello sport oggi non è proprio da quelli più felici, d'altra. Ho detto battuta. Uno potrebbe viverla come una battuta. Esatto, fra un po' la capiranno. La capiranno, ma non è così, non è una battuta, comunque è una battuta del tutto involontaria. E invece parliamo del fatto che nel 2022, no, si svolgeranno i mondiali in Qatar. Sì, ma non c'era la data prima, cioè 4 anni prima, nel 18, dov'è che vengono fatti? In Russia. Ah, ecco, no, perché la notizia era quella, no? Come è andato anche quella del 22? Perché deve essere successo qualcosa di strano nel 2010, quando hanno fatto l'assegnazione dei campionati mondiali al Qatar del 2022, e questo qualcosa di strano è stato denunciato qualche giorno fa da una rivista francese di calcio, France Football. La rivista francese, quella tra l'altro del Pallone d'Oro, ricordiamolo, che titolava, il numero era quello del 29 di gennaio, titolava Mondiali 2002, il Qatar Gate. E noi abbiamo raggiunto Antonio Felici, che è il corrispondente dall'Italia di France Football, ormai corrispondente storico da una vita che fa il corrispondente dall'Italia. Da lui cerchiamo di capire prima di tutto in che cosa consiste, ma anche soprattutto come mai di questa notizia si è parlato pochissimo in Italia. Sì, non ha avuto nessun riscontro in realtà, no? Cioè, è arrivata questa prima pagina, anzi la copertina del giornale, ma che però in realtà poi dopo Qatar Gate non è mai stato preso in considerazione. Antonio, pronto, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti. Allora. Sì, in effetti mi sarei aspettato un maggiore rumore, no? In effetti qualche telefonata mi è arrivata, soprattutto in qualità di esperto di scandali, perché io sono un po' perseguitato da questa storia degli scandali nello sport, avendo fatto due libri su questo argomento. Ecco, solo che stavolta sono stato interpellato come persona informata dei fatti, più che altro perché appunto è stato il mio giornale, due colleghi molto bravi a preparare questo reportage. Facciamo un riepilogo veloce per i nostri ascoltatori. Ma guarda, ti dico in termini molto sintetici, diciamo che questo dossier di France Football, basandosi su tutta una serie di informazioni riservate, rivelazioni e quant'altro, ricostruisce un po' quello che è successo nel 2010, appunto, per quanto riguarda l'assegnazione del Mondiali del 2022 in Qatar, gettando sotto una luce un po' particolare anche l'assegnazione alla Russia del 2018, che io ricordo a tutti quanti ci stanno ascoltando, già a suo tempo fu oggetto di un'inchiesta da parte della federazione inglese, che fu sconfitta dalla Russia per quanto riguarda l'assegnazione del 2018, peraltro quell'inchiesta non ha portato a nessun risultato concreto. In pratica il mio giornale ha ricostruito tutta una serie di movimenti, dal l'ingaggio di personaggi famosi per poter perorare la causa del Qatar, l'investimento di decine e decine di milioni di euro in comunicazione, cose peraltro tutto sommato abbastanza normali, ma soprattutto ha ricostruito tutta una serie di passaggi di buste e bustarelle quando si è trattato di votare, e se vogliamo anche questo non è che rappresenti una novità così sconvolgente, no, poi però... magari vi spiego un po' meglio anche ecco. Perché, ma la cosa che ha colpito di più, e arriviamo al punto che secondo me è più importante di questa inchiesta, cioè il mio giornale ha ricostruito con prove documentali, testimonianze e così via, un incontro avvenuto a Parigi tra l'ex presidente francese Sarkozy, il presidente dell'UEFA Michel Platini, l'allora rappresentante della proprietà del Paris Saint-Germain e emissari della federazione francese. Ecco Antonio, di questo incontro parleremo fra poco, perché adesso abbiamo una pausa per la pubblicità, quindi teniamo un po' di suspense. Ci sono dei grossi nomi, Sarkozy, Platini, Blatter, Grondona nell'inchiesta. E dopo la pubblicità ci racconterai tutto. Perfetto. Dai e vai, non è solo calcio. Torniamo a noi, torniamo con Antonio Felici di French Football, che ci racconta qualcosa di questo scandalo, incontro, questa specie di inizio o denuncia, scandalo dedicato ai mondiali del 2022, un incontro tra Sarkozy, Platini e poi chi è che c'era? Scusa Antonio. Eccoci qua, allora Sarkozy, Platini, un rappresentante della federazione francese e un altro rappresentante della proprietà del Paris Saint-Germain. Vi chiederete come mai, e ve lo spiego subito, perché praticamente in questo incontro pare che sia stato raggiunto un accordo di questo tipo. La Francia come potere politico, quindi Sarkozy, di comune accordo con la federazione francese di calcio e col consenso di Michel Platini, presidente dell'UEFA, avrebbero favorito in tutti i modi l'assegnazione dei mondiali del 2022 al Qatar. Non gratis però, in cambio di un conquibus, che è stato rappresentato da una massiccia campagna di investimenti degli sceicchi del Qatar in Francia, in maniera particolare nel settore calcistico, più specificatamente nel Paris Saint-Germain. Quindi volendo dare una lettura un pochino più maliziosa, si potrebbe dire che l'ingresso dei catarioti nel Paris Saint-Germain, con tutto quello che ne è conseguito, quindi le spese milionarie, l'arrivo di Leonardo, Ancelotti, Ibrahimovic, eccetera, sia in qualche modo un compenso pagato dai catarioti per ottenere l'assegnazione dei mondiali del 2022. Insomma, quindi all'interno di tutta questa vicenda l'obiettivo era quello del Qatar, insomma, avere poi dopo il mondiale. Tra l'altro la cosa un po' inquietante, che allarga un pochino il quadro della vicenda, è che uno dei principali collaboratori dal punto di vista legale del Paris Saint-Germain, targato Qatar, è il figlio di Michel Platini. Attenzione. E questo getta una luce un po' inquietante, anche sulla campagna che Platini sta portando avanti da alcuni anni sul fair play finanziario, laddove il Paris Saint-Germain al momento attuale è la squadra che rispetta meno di tutte al mondo proprio lo stesso fair play finanziario. Questo è vero. Spendendo e spandendo a destra e a manca. Ecco, senti quindi, Antonio, questa inchiesta è particolarmente corposa, lo diciamo per i nostri ascoltatori, sono 20 pagine del giornale dedicata a questa inchiesta. Sì. Conseguenze future? Cioè i mondiali resteranno nel Qatar, la federazione internazionale ha aperto un fascicolo, ha aperto qualcosa, oppure è passata sotto silenzio anche a livello di organismi sportivi? Beh, allora, il fatto che in Italia se ne sia parlato, come giustamente voi avete sottolineato, abbastanza poco, testimonia il fatto che in giro non c'è una grande voglia diciamo di dare seguito a questa inchiesta. Quindi nel rispondere alla tua domanda in termini negativi, nel senso che se ti dovessi dire io cosa succederà, la mia risposta non succederà assolutamente nulla, nel senso che si andrà avanti, si farà finta di niente, anche perché ormai la macchina organizzativa e la macchina degli investimenti soprattutto è partita, stiamo parlando di miliardi di euro, per cui non si tornerà mai indietro. Però voglio aggiungere un particolare che per voi e gli ascoltatori può essere molto interessante. La domanda da porsi è questa. Voi sapete che chi fa inchieste del genere fa molta fatica in genere a mettere assieme le prove di certi scandali, certi coinvolgimenti, certo. Perché parliamoci chiaro, è dall'assegnazione dei mondiali agli Stati Uniti, scusate, nel 94 che si avanzano sospetti di compravendita di voti, sì. Eccetera, però le prove non ci sono mai. Stavolta i colleghi, molto bravi, devo dire, sono riusciti a mettere assieme delle prove. Però se questo è successo è anche perché evidentemente qualcuno ha avuto interesse a farle circolare. Far sapere. C'era una gola profonda. La lettura che io vi propongo è questa, che siccome alla fine non ci sarà, come vi ho detto, nessun tipo di conseguenza, cioè i mondiali si faranno regolarmente nel Qatar nel 2022, viene da chiedersi cui prodest, no? Cioè quali saranno le conseguenze reali. Le uniche conseguenze reali è che la figura di Michel Platini è abbastanza appannata in questo momento, anche in seguito a questo scandalo. E guarda caso Platini è il candidato più accreditato alle prossime elezioni della FIFA del 2015 dietro il beneplacito di Blatter, che è attualmente leader, cioè leader da sempre praticamente. Quindi rientra all'interno della battaglia? Direi di sì, la mia lettura personale è esattamente questa. Personalmente ho anche, come dire, una teoria piuttosto articolata su questo argomento, però insomma non è chi è attento al diciamo lettore anche del mio giornale, per esempio, non è sfuggito che recentemente uno dei candidati alternativi, un certo Champagne, che è stato uno dei fedelissimi collaboratori di Blatter, che poi è stato estromesso in malo modo dalla FIFA qualche anno fa, sia il grande oppositore di Platini in questo momento, per cui è possibile che diciamo questo dossier in qualche modo sia stato facilitato da qualche personaggio interessato a orientare in qualche Mi viene da dire non è che l'inizio. Non è che l'inizio, da questo punto di vista assolutamente sì, però ecco, stiano tranquilli i catarioti, si giocherà a 50 gradi. No, perché ci ha telefonato, erano preoccupati, hai capito? Quindi è questo che ci preoccupava. No, sapete perché ve lo dico? Perché non più tardi di una settimana fa mi ha chiamato la televisione nazionale australiana chiedendomi praticamente la stessa cosa, perché l'Australia è stato uno dei paesi battuti dal Qatar. Loro naturalmente speravano che ritornasse tutto in gioco. E invece no. Mandate tranquilli, perché comunque anche loro adesso mi pare che anche loro hanno altri problemi dal punto di vista del doping, se non sbaglio, no? In questo caso appunto. Grazie Antonio, noi ci sentiremo ancora per altre notizie, ovviamente, e soprattutto per seguire che cosa accadrà su Platini, mi interessa moltissimo. Certo, sul fair play finanziario. Grazie, magari. A presto. Ciao, ragazzi. Antonio Felici, corrispondente dall'Italia di France Football, con cui abbiamo parlato di questo Qatar Gate. Beh, basta. Il Qatar Gate è così. Vabbè. Con copertina scura, tutta bella nera. Tu volevi lo stacco su quello? Ah, magari. Prova a dirlo di nuovo. Qatar Gate. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così. Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Ecco, vabbè, non il Qatar Gate è quella più stupida. No, invece torniamo a quello che sta accadendo al Forum d'Assago, che è la cosa che ci può interessare moltissimo, no? In questo caso stiamo parlando di basket. Stiamo parlando della Final Eight di Coppa Italia, in corso la finale, iniziata la 18 fra Varese e Montepaschi Siena. Abbiamo al telefono Carmelo Prestisimone, corrispondente di Radio 24. Carmelo, buonasera. Ciao, buonasera, eccoci qui dal Forum di Assago, finale di Coppa Italia, come dicevate bene da studio, che vede Siena avanti 40-29 quando manca 1 minuto e 54 secondi alla fine dell'intervallo lungo del primo tempo una partenza shock per Varese, perché Siena ha messo sotto i Lombardi 18-0 nei primi 4 minuti di gioco. 18-0? Eh sì, 18-0 esattamente. Cioè è una cosa quasi storica nel basket. Perché sono entrati prima nel campo loro, dai. Gli altri erano rimasti giù. Esattamente. Sono entrati dopo qualche minuto dagli spogliatoi, però poi sono rientrati appunto in partita, si sono riaccostati con la grande energia di De Nicolao, questo ragazzo della nazionale italiana under 20, e con l'atletismo sotto canestro di Dunston, e quindi insomma il team di Vitucci perlomeno è rientrato in partita, anche se Siena sta reggendo alle sportellate della Cimberio. Senti Carmelo, una splendida cornice di pubblico mi viene da dire, visto sentiamo il pubblico alla grande, pieno? Assolutamente, guarda, ci sono circa 8.000 spettatori, c'è una buona rappresentanza ovviamente della tifoseria senese, ovviamente tantissimi tifosi, la maggioranza di quelli di Varese. C'è anche una tribunetta dove sono sistemati, connotati i tifosi della Fortitudo, che sembra simpatissimo appunto per i senesi, insomma, mi sembra almeno di aver capito così, insomma, da qualche sì, abbiamo intervistati prima che sono venuti lì per far presente la loro situazione. Grazie Carmelo, grazie per il collegamento, ti sentiamo lì in mezzo alla bolgia, ma ti lasciamo lì a loro in questo caso. Assolutamente, siamo qui puntuali. Ciao, grazie, ciao. Presto. Quindi 11 punti di vantaggio di Siena su Varese quando mancano pochi secondi alla fine del secondo quarto in questa finale di Coppa Italia di basket. Mezz'ora che vuoi dare la classifica. Sì, cioè, dai, me questa la sento, classifica. No, perché è bella, è la classifica. Cioè, dai, bella, c'è una sua rotondità, hai capito? La Juventus è a 55 punti, e vabbè, questo si sa perché la Juventus è in testa alla classifica, vince il campionato. Napoli 50, poi c'è la Lazio a 44. A questo punto il Milan è salito a 41 punti, ha staccato l'Inter di un punto, l'Inter è a 40, però stasera deve giocare con il Chievo, ricordiamo il posticipo delle 20:45 sarà Inter-Chievo. Fiorentina 39 punti, l'Udinese raggiunge il Catania a 36 punti e supera la Roma che è a 34. Parma 32, c'è un terzetto di squadre a 28 punti, sono il Torino, la Sampdoria e il Chievo. Il Chievo... Scusa, come che hai detto? Allora, te lo rifaccio, no? Perché magari te l'hai ripersa. Il Torino, la Sampdoria... E mi svegli così, capito? Stavo già bioccando, no? Sulla classifica. E poi il Chievo che ha 28 punti anche lui perché gioca stasera nel posticipo. L'Atalanta ne ha 27, il Bologna ne ha 26, Cagliari 25, poi sotto hanno pareggiato tutto e quindi è rimasto sostanzialmente tutto uguale. Quindi Cagliari 25, Genoa 22, Pescara 21 e Palermo e Siena 18 punti. Colpito, eh? Dico questa storia qua di Cipollini, un po' ha colpito. Sì, ha colpito, colpito. Vabbè, infatti insomma. Ce la scrive anche Nico sul 349-238-6666. Nico dice, qui a Lucca, dal che capiamo che Nico è di Lucca, come Cipollini, perché certo. Cipollini è di Lucca, malgrado avesse la residenza a Monte Carlo. Qui a Lucca le voci su Cipollini giravano da anni e conoscendo la persona nessuno si stupisce a zerare tutto e tutti. Volevo fare un po'. Azzerare tutto e tutti. L'hai già detto. Sono curioso se i nomi degli illustri atleti di altri sport extra ciclismo dell'operazione Porto saranno resi pubblici. Ma vedremo, Marta. Noi attenderemo anche quello. Anzi, noi stiamo tenendo da un po', eh. Sì, da un po'. Ma sai come sono gli spagnoli? Prima vincono tutto, poi si scopre che c'avevano l'aiutino. Hai ecco, capito? Vabbè, adesso non cominciare sempre ad avere, a minimizzare, a ridicolizzare sempre le cose. Scusa, la Spagna ha vinto due campionati europei e campionati mondiali, poi c'era Contador nel ciclismo. Ma, scusa, volevo dire un'altra cosa. Ma a voi non vi sembra che la Juve corra un po' troppo? Da cosa c'entra, scusa? No, oggi? corre. Ma cosa c'entra? Corre. No, non voglio parlarne di queste cose. No. Traffico, parliamo del traffico. It took me by surprise, I must say. Coppa d'Africa, parliamo di quello? Sì, perché c'è la finale di Coppa Italia, però c'è anche un'altra finale di Coppa. Si tratta della Coppa d'Africa di calcio, nel primo caso è pallacanestro, nel secondo è calcio. Una è una nazione, l'altra è un continente, non vorrei darti questa differenza sostanziale. Sei sempre pistillo. No, te la mettevo lì sul tavolo, la voglio dire, no? Però ecco, cosa sta accadendo allora in Coppa d'Africa? Coppa d'Africa alle 19 scenderanno in campo Burkina Faso e Nigeria e chi vince vincerà la Coppa d'Africa. La favorita già a casa da mo'. Sì, esatto. Sono stato un po' troppo tecnico. In realtà le favorite. Perché erano Costa d'Avorio e Ghana le grandi tutte favorite. E due a casa, no? Tutte e due a casa. Però noi a un certo punto abbiamo affrontato la Coppa d'Africa sotto un aspetto un po' particolare, cioè sulle scommesse, sulle partite però fatte dagli stranieri, dai residenti in Italia e in particolare a Padova. Ne parliamo con Marco Schiesaro. Pronto? Pronto, eccomi. Eccoci, qui. Come stai, Marco? Benissimo, siamo prontissimi qui, eh. Allora, voi lì alla SNAI avete già chiaro tutto quanto, no? Quello che sta accadendo lì a Padova, la SNAI di Padova. Certo. Ricordiamo intanto che voi avete fatto un mega schermo. Il mega schermo c'è ancora? C'è ancora il mega schermo. Qui è peraltro tutto pronto, maxi schermo gigante all'esterno, ma ci sono ben 10 televisori che sono in diretta per l'incontro Nigeria-Burkina Faso, dove voi avete già detto che la Nigeria è chiaramente favorita, ma noi oggi, per accontentare gli appassionati, abbiamo addirittura lievitato un po' le quote. La Nigeria è bancata a 2,50, il pareggio a 3, il Burkina Faso a 4,20, ma non ci sono solo le scommesse, ci sono anche i tanti colori che dominano sostanzialmente la giornata di oggi, giallo, verde, rosso, con tanto di striscioni e bandiere della Nigeria e di quegli sparuti del Burkina Faso che per la prima volta affrontano la finale di Coppa d'Africa. Infatti, qui è Davide contro Golia proprio. Bravissimo, Davide contro Golia, però voglio dire, il Burkina Faso se la giocherà il tutto per tutto, molti dicono chissà quando ci capiterà ancora un'occasione del genere, ma siccome anche qui gli appassionati sono tantissimi e non ci stiamo, abbiamo contato 635 persone e molte stanno accalcandosi per cercare di assistere anche loro agli incontri. Dove collocati? Dove li avete collocati? Sono davanti praticamente all'agenzia ippica Piazzale Stazione a Padova, ma siccome appunto non ci stiamo, abbiamo organizzato dei pulmini che vanno all'Asso Rock in zona industriale, dove lì ci sono altrettanti maxi schermi e attenzione, si vincerà la Nigeria, noi è doveroso offrire champagne per tutti per festeggiare, perché come a Padova champagne? La comunità nigeriana è vastissima. Enorme, basta. Enorme. Sì, però non è che poi dopo agli altri gli dai chinotto se vincono gli altri. Non fare il solo. No, Marco, non fare festa. Il braccino corto, mi raccomando. Io capisco che se vince il Burkina Faso, mi sa che Snai deve cacciare un sacco di soldi. Bravissimo, perché a 4,20 è molto alta come quota. Però il Burkina Faso viene da un 4-1 al Mali in semifinale, ma che ricordiamo ha vinto la finale per il terzo posto ieri, quindi cioè non è che sono degli... No, non sono, diciamo, proprio così delle schiappe, però chi osserva gli incontri può notare anche la conformazione fisica, diciamo, di questi giocatori, che sono molto alti, snelli, mentre i nigeriani sono conosciuti per essere tarchiati, un po' bassi, un po' anche grossi, e sono quasi dei rugbisti, quindi è tutto un incontro da vedere questo. Va bene, noi ti ringraziamo intanto, magari grazie, ci sentiremo poi in serata o in altre situazioni, grazie per il tuo contributo e per averci fatto seguire in maniera un po' particolare la Coppa d'Africa. Grazie, grazie a voi. A presto, grazie. Era Marco Schesano da Padova, dove ci sono tutti gli stranieri che hanno deciso improvvisamente, cioè, è successo circa 10 giorni fa, di concentrarsi davanti a questo punto scommessa, perché si vedevano le partite, e sono arrivati talmente in tanti che a un certo punto hanno dovuto chiamare... Hanno detto, forse è meglio metterli da qualche parte. Esatto, hanno dovuto chiamare prima la polizia per ordinare un po' le cose, poi hanno fatto uno schermo gigante con questi pulmini che portano gli appassionati di calcio africani a vedere la partita. Parliamo, parliamo di Eto'o, velocissimo. Camerun. Si è arrabbiato con la sua federazione. No, davvero. Sì, gli ha detto che sono degli incompetenti e corrotti. Ah, però bene, cioè, ecco, ci è andato leggero. Questo è il primo comunicato. Il secondo comunicato, rischio la vita. Questo è stato il secondo comunicato. Però noi adesso in questo momento siamo collegati e ci colleghiamo per pochissimi minuti, però ci interessa moltissimo, perché all'interno del nostro i tifosi da sport, come si suol dire, nella nostra rubrica, no, parliamo con il club Chievo di Verona, in questo caso, che si sta spostando e sta arrivando qui a Milano. Dove siete? Pronto, Carlo? Ciao, siamo nell'autogrill dopo di Bergamo, ci siamo fermati per un caffè tutti quanti assieme. Ah, ve la prendete comoda, ve la prendete proprio. Siamo nati comodi noi. Sì, certo. A che ora siete partiti, Carlo? Siamo partiti alle 5 e siamo qua dopo Bergamo, sto aspettando l'ultima famiglia che sta arrivando e... adesso ci siamo sul primo un'altra volta. Scusa Carlo, due ore per arrivare da Verona a Bergamo, a piedi siete venuti? No, ma noi siamo comodi, con calma, tranquilli, c'è proprio, fate una chiacchierata. Sì, ma guarda che sul primo abbiamo le brioche, abbiamo certo. Ma chi è che non va in trasferta con le brioche, diciamolo? Brioche faluani comunque. Senti, ma voi, certo, come minimo, voglio dire, ma voi del club Chievo di Verona, no? Sì. In quanti siete a fare le trasferte? Allora, di solito siamo un pullman assicurato, invece questa sera, siccome che si è in casa notte inoltrata, si pensa, dopo dicono che hanno paura per la neve, quella roba lì, quello... Quindi? Se siamo il solito pullman siamo. Perché di solito sono un pullman, ma visto che c'è il rischio neve, sono un pullman. È sempre un pullman, insomma. Senti, Carlo, a che ora vi faranno uscire? Avete già un'idea del... No. Bisogna vedere quanta gente che c'è a Milano che guarda la partita. Ma una mezz'ora sicuro si sta dentro. Mezz'ora sicuro. Carlo, però diciamocelo chiaramente, voi siete la tifoseria più simpatica di tutta Italia. Sì, no, anche di Europa, penso. Beh, adesso non ti allargare troppo. No. Carlo, guarda che io so che c'è una squadra in Belgio dove c'è una tifoseria simpaticissima, e quindi state attento a quella squadra lì in Belgio, che forse è più simpatica di voi. Dai, che squadra è? Poi te lo dico dopo, lascia stare. Però... Allora mandami il messaggio che prendiamo i contatti, dai. Ecco, volevo soltanto dire, abbiamo pochi minuti, no? La cosa che volevo capire un attimo, la vostra, cioè voi siete il Chievo Verona, andate in giro, cioè il club del Chievo Verona, andate in giro, e gli altri tifosi, le altre tifoserie, com'è che vi accolgono? Bene? Cioè, sì, il 90% tutti quanti ci accolgono bene, come adesso un'altra iniziativa che abbiamo già fatto, che stiamo prendendo, è Pescara 2 giorni. Ci stanno già aspettando, andiamo fuori che cena con loro. Udine anche, li facciamo 2 giorni. Sì. Cioè, le squadre minori vi adorano, insomma, è questo il concetto. Sì, a parte, posso dirlo, la Juve. Quindi il 10% Napoli. È la Juve di cui parlavi? Napoli e Juve, ma questo per ovvi motivi. No, anche la Lazio, e non parliamo di Firenze. Perché scusa, mi sembra che siamo più del 10% a questo punto. Sono gemellate con l'Hellas, hai capito? Allora noi non accettiamo nulla. No, perché siamo più del 10%, perché hai iniziato a dire prima la Juve, poi ha aggiunto il Napoli, poi hai messo la Lazio. Abbiamo raccolto qualcosa quest'anno con il Milan, con l'Inter abbiamo buoni rapporti, con la Juve 0, non parliamo di la Fiorentina e Lazio 0 totali. Zero. Perché c'è l'Hellas di meno, sai? Lì sono i veronesi, no? Che... sì, No, voi non avete mai fatto neanche un incontro? No, proprio no, non... è impossibile. È un'altra categoria, cioè, nel senso, è una cosa, proprio loro guardano l'Hellas e Voi siete quelli del quartiere, diciamo. Sì, siamo proprio un quartiere di Verona. Voi andate però a vedere l'Hellas? No. Vedi, allora, cioè anche voi siete un po' così. No, siamo andati a vedere qualche partita... Di ad nascosto. Esempio Cesena ci ha invitato in curva nord quest'anno a vedere Hellas Cesena. Ci hanno portato tutti i biglietti da Cesena, con i nostri nominativi siamo entrati in Cuba ospiti. Eh sì, noi. Ma lì siete andati a far tifo contro. Contro, eh. Certo. Non è che abbiamo tifato, guarda, abbiamo guardato la partita. E senti, dopo siamo stati blindati in casa anche. Però Juventus Cesena, cioè Cesena-Juventus, l'ultima partita, l'ultima che c'è stata. La sensazione era che c'era quanti juventini c'erano? Sono arrivati da tutta Italia in massa. Sì. Da noi sì. Quindi è l'unico momento in cui riempite Juventus lo stadio. Chievo. Chievo Juventus. Chievo Juve. Lì è l'unico momento in cui riuscite a riempire lo stadio, giusto? Più sì, o meno. Sì. È stato esaurito. Ecco, lì, quindi in questo caso l'80% su quanto Juve lì è. Ma adesso quanti siete riusciti a mettere insieme? Quanti siete voi? Saremo una centinaia questa sera. Centinaia. No, ma in generale quando in giocate generale, in casa? Il massimo, quando siete riusciti a recuperare tutti quanti in casa, quanti siete? In casa? Ma penso che saremo sui 10.000, 9-10.000. Ah, però! Però. Alcuni paganti, vero? Parliamo certo, paganti. certo. No, no, gli abusivi non ci interessano in questo caso. Ho capito. 10.000. Senti, no, ma come Campedelli gli va bene così, si vede il nostro presidente. Certo, certo. Siamo pochi ma buoni, si dice. Senti, io però vorrei soltanto che potresti farmi un favore, volevo chiederti questo. Potresti salutare e ringraziare quei tre tifosi del Chievo che sono andati anni fa giù a Reggio Calabria, mi pare. Sì. Ma li conosco anche. Ecco, salutaceli perché sono rimasti nel mio cuore. Lo spiego ai nostri ascoltatori, sono andati in tre o quattro, quanti erano? Sì, ma certamente ce li saluto anche dopo perché li vedo dopo. Era un mercoledì, hanno aperto uno striscione con dentro scritto non abbiamo un cazzo da fare. Questo ecco, era quello. Grazie Carlo, una buona ciao, serata. Anche a voi, ciao, grazie. A presto. Ciao. Beh, dobbiamo andare a chiudere lentamente, ma inesorabilmente, ovviamente, perché sta per chiudere, quindi ringraziamo Valeria Bernardi e Roberto Scaltritti che ci hanno guidati al mixer. Ringraziamo Sergio Ferrentino, la regia di Dai e Vai anche oggi. Davvero, mi ringrazio anche questo qua. Giorgio De Luca che ci ha aiutato e ha assistito al nostro programma. In redazione Luca Cancellara, oggi inviato anche all'esterno del forum di Assago. L'altro pianeta di Laura Bettini arriva tra poco qui direttamente su Radio 24 a risentirci. Grazie. Dai e Vai alle 22 torna, ricordiamolo, questa sera alle 22.